Ma tanto è inutile. E sono andato in diretta comunque. Prof, la stamperò al più presto. Vabbè, non c'è su Facebook la prof. Se ci spara. Ah, vogliamo perdere una causa contro HBO? Sì. Su Facebook si può. Non puoi guardare. No, guarda che carattere. No, su YouTube si può. Su Facebook non è. Che background? Ma carattere. Ah, sì, carattere. Credit. Credit HBO. Sì, so io che scrivo. Vado. Faccio già. Ma quando lo fai su Facebook lo puoi fare perché non vuoi andare. YouTube ci sto, ci sto. No, YouTube lo puoi fare. Ci sto. No, anche su YouTube, YouTube ci. Se dici di chi è la canzone. Okay. Creative Commons. Non so quando verrai qua, purtroppo no. Ho scritto tanto. Boh. Spero solo questo. Ma chi è? Dammi il wifi, maiale. Scegli i tuoi dati. Qual è il diventi che posso usare? Quello rosa. Enrico Cartabriga nelle vicinanze ti ha inviato un saluto per salutarti. Ti ha inviato un per salutarti. Posso interagire con te? Adesso che ti rispondono saluti. Sei pronto per sabato? Il grande evento? Facciamo una ronda. Che c'è sabato? Evento di Pokémon Go, l'anniversario. Tutto di disco. Più che altro c'è il compleanno. Ma non bisogna partecipare. Va bene, benvenuti alla settima stagione di Game of Thrones. Volevo dire al sesto episodio di Coloni. Che si chiama La danza dell'Otaria. Vi ricordiamo, noi siamo Tycoons and Dragons. Come perché non ci sono notato. Io? Tu ci sei. Sono troppo lontano. Okay. No, devi venire un po' più in qua, magari non distruggere. Che ci sta spammando là. Scherzavamo. Ciao Gino. Scontro. Scusa, sei nido del carro? Sì. Voglio morire. È tutto brandizzato. Guarda, adesso metto mi piace al commento tato, all'altro commento e... tato. Noi siamo Tycoons and Dragons, potete seguirci sulla pagina Facebook di Tycoons and Dragons, ovviamente, ma anche su quella di RipGDR, sul blog, che è ripgdr.wordpress.com. E sul podcast, che è quello di RipGDR, e shoppate. Tutte le volte fai scappare tua cugina, non è che ci sei. Non mia cugina ha scritto solo 26 post in 30 secondi, perché d'altra parte... Grazie. Non ti devo impegnare di più. Dov'è Yak che non ci segue? Yak vi ringrazia, ma no. Va bene, come dicevo questo è il sesto episodio di Coloni. E segue dal quinto. Come fanno ad esserci 10 commenti? Che si chiamava Ultimo Salamo. Di livello? No, non salite di livello. Però potete aprire la birra se volete. Prendo la birra se non di livello. Sono di livello troppo basso. Vai, allora. E l'ultima puntata era Ultimo Scalo, ma ha cambiato nome perché non si è arrivato all'ultimo scalo. Guarderemo Game of Thrones, ma quando uscirà? No, era una domanda che c'era in chat. I nostri fan. Esatto. E è diventata di fatto il segreto di Sirron. E adesso, cosa molto importante, ho il piacere di presentarvi me, Andrea Giacomovecchi, ma soprattutto i miei ospiti, Giulio Bosi, Luca Razzorini e Enrico Cattabriga, ma soprattutto... Se vieni qua, tiralo. Edoardo Saladini, live da Bologna e non da Marsiglia. Come vedete non c'è quella noiosissima finestrella buia, tra l'altro, nell'angolo. Quindi benvenuto con noi in trasmissione qui live. E direi che nessuno meglio di te... Di nuovo, faccio sempre io riassunto. Sei cazzo di bardo. No, lo puoi fare. Ma tu non l'hai mai fatto? Sì, l'ho fatto io. Una volta. Lo faccio io. In un'altra campagna? No, in questa. Era l'avventura, era quel pezzo di avventura in cui io ho risolto la situazione di quel demone alato che è entrato nel... Ho riassunto quello, nella grotta. Ci sta. Vabbè, quando non avete fatto l'unica cosa che dovevate fare. Loro, io gli ho salvato la vita dal demone. Quando io ho fatto quell'interpretazione di Giulio, meraviglioso. Esatto. Va bene, chi di voi vuole può fare un mini riassunto. E poi partiamo. Ma non è una gag, lo faccio davvero. Vai, Bardo. Siamo già in diretta da un'ora, non il quaderno verde. Il quaderno verde ce l'ha, credo, Salla. Me lo stai costruendo. Non lo so. Visto che... No, non è vero. Esco da cosa, non ti cavo neanche banda, siamo tutti felici. No, vabbè, non è un problema. Parla del microfono. Allora, ah, visto che Giulio, questo personaggio, come si chiama? Arian è la causa di tutti i mali che sono stati nella nave nell'ultimo episodio. Questo è stato appurato da Moviola in campo, da tutte le cose. E il capitano se l'è presa con noi, non so per quale motivo. E quindi ci ha obbligato, una volta fermati a terra, a fare legna. Sì, è vero. Siamo andati tutti felici a fare legna e abbiamo scoperto che gli ippi si sono evoluti in una sorta di cumulo strisciante erboso che, vabbè, abbiamo ucciso molto in modo easy. Dopodiché loro non so che cazzo abbiamo fatto, io ho tagliato la legna, adesso perché cambiamo cose strane. È vero, sei stato molto applaudito da tutti. Allora, io ho una lancia, tagliare la lancia. Ma dato un'ascia comunque. Siamo tornati alla nave, il capitano mi ha fatto altri complimenti meritati, vabbè, ci sta. Sono andato a dormire e pensavo che ormai... Ah, quindi ho riassunto in prima persona questo. Sì. Vabbè, ovvio. Sono andato a dormire e pensavo che ormai tutte le puttanate fattibili erano state fatte. Come racconto. E invece no, mi sbagliavo, perché vengo svegliato durante la notte da uno dei miei compagni. Sirron. Con un manganello in mano. È un bastone. Vabbè. Io mi sono svegliato, l'ho addormentato. E lui si è addormentato. L'abbiamo legato, perché mi ha seguito anche Eric. Sì, bravo. È l'unico nome quanto, che... Quanto hai pagato? Pietro? Per la nomination pubblica. L'abbiamo legato e il capitano è arrivato. Ora, il capitano è abbastanza incoglionito e non si è accorto del fatto che noi siamo persone normali, mentre Sheo è una persona particolarmente ritardata. Mi vado. E vabbè. Sì, E anche Sirron. Che è chiamato dagli amici Sheo. Sherron. Ah no, quello è Draco. Vabbè, la morale della favola è che Sirron è stato imprigionato. Il capitano ci ha fatto parlare con lui per definire, insomma, perché è impazzito, che cazzo è successo nel frattempo. Sirron non ci ha voluto dire niente perché a quanto pare è matto. Abbiamo scoperto che porta un oggetto magico che gli dà un'altra personalità molto simpatica, che mi odia. Più o meno. Sì, diciamo non sembra averti proprio simpatia, quello sicuro. E poi poi ci siamo persi tra discussioni sul metagame, non mi ricordo più come è finita. Ah no, è finita che Sirron è stato frustato da casa. Sirron è stato frustato, l'oggetto magico ce l'ha Arian. Sì. E io stavo dicendo una cosa, io a parte saperlo, ma ho anche stavo dicendo una cosa alla ciurma, invitandola a uccidere, cioè a linciare, ammutinamento. No, allora, tu in realtà all'epoca non mi hai detto, cioè mi hai detto che tu volevi creare zizzania all'interno della ciurma sul fatto che il capitano non si fosse comportato in modo Io ho detto che il capitano ha paura, sì, e quindi la ciurma deve decidere, cioè e la ciurma deve fare qualcosa perché insomma questo tizio è pericoloso. Sì, però secondo me in realtà tu avevi... Cioè, ok, puoi aggiungere questa cosa nei giorni seguenti, però in realtà tu all'epoca mi hai detto una cosa un pochino diversa. Cioè, due cose, mi pare. Uno... Ogni inizio dobbiamo rifarla molto. Sì, no, una era che tu avevi ovviamente salvato tutti, eccetera. Beh, questo sì. Esatto. Così anche il riassunto, no? Compare, non è evidente. E l'altra era che sì, cioè... Volevi mettere un po', diciamo, sul baracco il capitano dicendo che non aveva gestito bene la cosa e aveva lasciato un uomo pericoloso a bordo, qualcosa del genere. Però non avevi ancora. Avevi messo il seme, ma non avevi organizzato proprio una vera e propria rivolta. Ho anche detto, però, che bisognerà, insomma, prendere una decisione. Va bene. E tu, Giulio, vuoi aggiungere qualcosa sul tuo colloquio lui con sì. Lui vuole aggiungere un'immagine. Ok. Niente. Con cui commenterò. A quanto pare Sirron aveva questo oggetto, che è uno scrigno che non abbiamo ancora provato ad aprire, ma non sembra aprirsi. Uh-huh. Vabbè. A quanto pare è legato a qualcosa del successo in passato di uno spirito che è stato provato a essere liberato, richiamato nel genere. Perché in questo rituale è successo qualcosa che non è andato per il verso giusto e adesso tormenta questo spirito, diciamo, tormenta Sirron. Sì, allora, diciamo, per puntualizzare, semplicemente mentre Cabe e gli altri organizzavano insieme al capitano, diciamo, di frugare addosso a Sirron per prendere questo oggetto, Arian rimaneva a colloquio con Sirron, che gli ha spiegato questa cosa che gli altri non sanno nel dettaglio in realtà, e gli ha consegnato lo scrigno. Poi, quando è stato trafugato, effettivamente Cabe si è accorto che lo scrigno non ce l'aveva più lui, e poi ha cominciato a fare cose stupide col video. Ehi, guarda, c'è la luce, vedi, sei visto? No, cioè, si è accorto che ce l'ho io. E si è accorto che ce l'ha Arian. E però intanto è stato trafugato, hanno preso un altro oggetto caro a Sirron, che è esatto, a denti, che è stata buttata in mare. Quindi ora in questo momento Sirron è in gattabuia, frustato e denudato praticamente, no, però insomma gli avranno dato i vestiti e niente, metà dei personaggi presenti stanno facendo cose molto stupide. Uno sta giocando a Pokémon e va bene, Giulio, quindi io e te giochiamo. Va bene. E ok, siete diciamo a più o meno, mi pare, 5-6 giorni, facciamo 5 giorni dal porto di Narcan. E sì, grazie. Ma poi il capitano ha detto che vuole lasciare al porto cosa? Sì, allora, praticamente esatto, quello che voi appurate, cioè, forse non è stato chiaro, però lo appuriamo, di fatto è che l'idea del capitano è quella di arrivare a Narcan e poi, prima di fatto di partire, di rilasciare Sirron e lasciarlo al porto. È giusto, potrebbe anche lasciarlo in mare, per quanto mi riguarda. Sì, lo sappiamo, però lui ha deciso comunque di non ucciderlo, però diciamo che non lo vuole lasciare là, vedrà se là riesce, diciamo, a fidarlo a qualcuno, però di solito le guardie cittadine non è che gli interessino queste cose, cioè non è che se lo prendono così, però si vedrà, insomma, arrivati lì. E nei giorni che seguono, se voi volete fare qualcosa, ditemelo. Io provo a curare un po'... se mi è concesso raggiungere Sirron, sì, vabbè, non importa necessariamente che tiri, diciamo. Aveva che... fatto delle robe non letali, paccoli. Sì, ma non con gli incantesimi, con gli impacchi, con il guarista. Diciamo che medicina. Nei giorni seguenti ti viene. Sei venuto in audio, secondo te? Il giorno stesso no. Okay. Il giorno stesso no, però nei giorni dopo. Tipo. Sì, nei giorni seguenti ti viene concesso di fare delle brevi visite, però in linea di massima cercano di lasciarlo, di non far entrare nessuno. No, solo per un sì, pacco. Sì. No, sì, riesci a farlo. E una cosa che succede è questa. Per evitare possibili infezioni. Sì, quella è la mia voce. E vabbè, ho tiratela meno allora. Dove trovi una bella voce? Tu è la mia voce. E dobbiamo pagare il diritto d'autore anche lui. Ah, salutiamo i amici, no, scherzo. E salutiamo la voce di Vez. Salutiamo la mia voce. No. Mentre state andando, diciamo il giorno seguente o comunque più o meno. Mentre sei su, diciamo, sulla balaustra della nave e guardi il mare con fare pensoso, ti si avvicina un personaggio che conosci. Si tratta di Tatliv. Il gatto. Esattamente. Tatliv si avvicina a te con fare molto casuale e ti dice... Scusami, sono No, mi va lì, si appoggia un po' così, tipo da sereno. Non voglio parlare con te, ma in realtà voglio parlare con te. E in questo momento voi siete soli. Poi ti fa la mano morta. E ti dice: ho saputo che hai avuto una conversazione interessante e proficua col tuo amico. Il tuo amico fustigato. Fustigatto. Beh, diciamo che a quanto ho capito gli hai L'ha aiutato un bel po'. Sai che si avvicina al microfono, quindi è il panico. Adesso si caccia. Adesso. Non le ha sentite, ma quando riguarderà. Sì. No, stiamo dicendo cavolate che tu non senti ora, ma sentirai dopo. Sarà il podcast. No, non ho fatto niente di particolare, solo quello che ritengo giusto. Sì, mandando un gabbiano. Quello che hai fatto probabilmente è stata la cosa migliore, non solo per lui. Immagino che fulminino. Sai di cosa si tratta? Di cosa stiamo parlando? Beh, penso che sappiamo entrambi di cosa stiamo parlando. Io lo so, ma tu? Beh, se te lo sto chiedendo. Ma tutte le dita che ha tagliato non le puzzano nello zaino con sto caldo? Uno. Ormai no, è perché l'ho pulito, solo lo scheletro. Ah. Mi bastava quello. Okay, la prossima volta devo prendere un qualche d'acqua. Pessima scelta di parole, giuro. Beh, tu cosa sai, scusa? Beh, io so quello che sei tu. Ma volevo sapere se tu sapevi di più di quello che sapevo io. Hai origliato la conversazione tra me e Sirmo. Non c'è bisogno di origliare quando si è presenti. Ma questa è un'altra storia. Non ti è passato quel mal di mare assurdo che avevi beccato? Facciamo essere diretto da noi. Sì, l'acqua di Panafals non era particolarmente salubre a quanto pare. Ma sai, ho una dieta ferrea e noi felini abbiamo bisogno di nutrirci con acqua anche. Ma chi è Arcio? Sì. Ad ogni modo, se ti interesserà sapere di più qualcosa di più su la palla di pelo, diciamo su un piccolo oggetto Anarchain, potrei andare da un certo Garin. È solo un consiglio, ma potrebbe aiutarti. Ah, ok, grazie. Non c'è di che. E in cambio cosa vuoi tu? Non voglio niente. È solo una gentilezza magari per le volte che ti ho dato delle erbe un po' per me. Hai un po' di erba per me adesso? L'erba gatta. E i vicini in ascolto è sempre un gioco di ruolo. Beh, se hai qualcosa lo prendo volentieri, ma ad ogni modo è un mio piccolo consiglio. Grazie, mi interrò da conto per me. Garin. Dove? A Anarchain, che è il porto dove stai andando. Darkheim, sì, prendi scusa. E vabbè, ti spiega. Ti può spiegare. Vabbè, puoi anche chiedere. Continua a dire in giro che è meglio che il prigioniero stia. Dimmi esattamente cosa vuoi tramare. Vabbè, lo ringrazio. Magari gli do qualche erba per il mal di mare se gli capita. Accetta, io metto in giro la voce, ma molto voce, poco io, che è meglio che il prigioniero stia il meno possibile sulla nave perché porta sventura e rischiamo da un momento all'altro di una disgrazia. E ogni segno, tipo magari, non so, magari c'è un giorno di tempesta, dico ecco questo è il prigioniero, oppure magari c'è il mare mosso, dico questo è il prigioniero, minchiate del giorno. Fammi un tiro. A girare. Sì. Lucky. Hai lucky. Io sempre lucky. No, non ho lucky. 9 più 8. Allora che cazzo hai ritirato? Ci ho provato. 9 più 8 17. Ok. sì. Allora, quello che succede nei giorni successivi, tu Giulio, se vuoi parlare con gli altri, puoi dire, vero, tu avevi parlato con Quake di questa cosa. Io ogni giorno ero un po', ogni giorno ho più coglioni di sta storia. Sì. E allora, intanto facciamo Giulio. Ah, ok, facciamo una cosa di Cade. Diciamo che più andate avanti, più cominciano di fatto sulla nave a crearsi due sorte di fazioni. Ti ricordo che il primo tiro fa tipo 20. Sì, sì, sì. si cominciano a creare due fazioni tra chi continua comunque a avere fiducia nel capitano e chi invece comincia a dire che il capitano no, io però non dico ammutinamento, dico semplicemente che il capitano è in una brutta posizione, non è colpa sua, però noi ad ogni possiamo modo decidere, diciamo che comincia a creare una fazione di gente che vorrebbe buttare in mare Sirrum. Perché teme che la sventura sia su tutti voi. E vabbè, fatemi pure il momento vostro di... Io la prima occasione che siamo insieme, oppure se non c'è lì raduno per parlarci, magari una sera andiamo sul ponte della nave senza che altri possano sentire, cioè senza gente in giro. Che vuoi? Gente in giro. Credo che dovremmo parlare di quello che è successo. Ah, parliamo di quello che è successo, sì. Cosa ti ha detto mentre eravate da soli il ciccio? Mi ha detto più o meno qual è il suo problema. È uno solo. Uno dei suoi problemi, diciamo il principale. Okay. Comunque, secondo me, non è saggio fare quello che stai facendo. Non sto facendo niente. No, io non mi faccio una roba tipo un po' in camuffa. Fai un po' in camuffa. Fare un insight. Dico, tipo, però... sarebbe meglio di... Oppure bisognerebbe che... Però no, non è che vado in giro a dire, sì, capito. No, quello è d'accordo. Però... Posso fare un tiro per sapere se è stato lui a mettere in giro le voci? Vuoi rispondere? No. E dopo. E allora, puoi fare un insight. Ma allora, in realtà, secondo me, un po' di voci ci sta che tu vedi che comunque lui lo dica in giro, onestamente, perché alla fine siete più o meno sempre in gruppo. No, nel senso, io dico che lui è un pericolo, ma non è che vado in giro a urlare. No, quello è d'accordo. Buttateli in mare. No, quello non dico però mai, ci sta. No, per esempio, non dico mai le parole buttiamoli in mare. Però, ma non ti sto dicendo. No, ci vabbè, vorrei no, che no, però ci sta che a meno che tu non voglia nasconderlo agli altri. No. Allora ci sta che Giulio comunque veda che. Però tu... no, voglio che sia chiaro che non sono io che vado in giro a dire sì, è la merda, no, buttiamoli in mare. Io ho detto, secondo me non è saggio continuare a alzare gli animi, non ho detto. Ma no, io voglio che la ciurma sia consapevole del male che portiamo in prigione. È un povero disgraziato. Appunto. Colpito dal caso. Fatti vedere questo. C'è quella roba. Pessima idea. Ma cos'è sta roba? Vabbè. La nostra linea comica. Baduccia. Questo non lo vedono in... No, grazie. Possono vederlo solo. Da quello che racconti tu sei un grande eroe. Non dovresti accanirti con chi cerca un percorso di redenzione. Lui ha cercato di uccidermi. Non c'è su questo. Hai ragione. Però non l'ha fatto. Ho capito. Perché non se l'ha fatto. No, non l'ha fatto. Non ho detto però non ce l'ha fatta, però non l'ha fatto. No, non ce l'ha fatta perché cioè no, non l'ha fatto no, perché non ce l'ha fatta. Non l'ha fatto perché l'ho addormentato. Ma lui ha anche interrotto. Non lo sai, perché lui non lo sa. Abbiamo parlato, sì. Ah, sì, ti ha detto che sei interrotto. No, boh, lui è quello che ti ha detto che sei interrotto, però non mi fido di lui. Facile. Vabbè, non è vabbè ma non dico di ucciderlo, dico solo di lasciarlo al prossimo porto. E ci deve arrivare a nuoto, però il prossimo porto. Ormai è una scelta che il capitano sembra aver preso. Perfetto. Non ho capito perché lo difendi. Perché puoi finire lì anche tu, capitano. Capitano, sa quella storia che il capitano nel è una senso, merda? È uno sconosciuto. No, sbaglio persona. È uno sconosciuto. L'unica cosa che ha fatto per me è cercare di uccidermi perché dovrei difendermi. Ormai abbiamo passato qualche avventura insieme. Tipo, ucciso dei cosi di ho detto qualche di avventura. Anche. È un disgraziato che cerca redenzione. Vabbè, la cercherai in un'altra nave. Non è un mio problema. Ma un problema con te si è risolto. Voi altri tizi cosa ne pensate? Che questa cosa è molto strana, effettivamente. Bravo. No, sì, vabbè, sì. Nel senso è strana, che... mica... Che l'Ardia non... non ne ho viste molte nei miei viaggi di, con situazioni del genere, ma da quello che ho visto sembrerebbe proprio che avesse dei momenti in cui lui agisce non secondo la sua volontà. Non so se vi è qui è pericoloso. Assolutamente, e lui sarebbe pericoloso anche è pericoloso per lasciarlo a piede libero. Ah, suggerisci di ucciderlo? Beh, vabbè, si può fare. Non è quello che volevo dire, ma quello che speravo del suo percorso di redenzione. Certo, io tutte le notti devo dormire preoccupato. Di mi... questo non ti devi più preoccupare. Perché? Chi me lo garantisce? Il dio del fulmine. Certo, di che altra garanzia hai bisogno? Certo, sì. Impero so. No, non posso dormire con un occhio aperto per evitare che lui mi ammazzi, non ha senso. Ma guarda, non ce la faccio. Lui dice che tu non sei Anolian. Appunto, ti sembra normale. Non sei l'Anolian che cerca lui, quantomeno. Sì, appunto. Vabbè, sei l'unica persona nella storia di questo mondo che si chiama Anolian. Ti spiego, questo coso l'ha detto, cioè nel senso la decisione in cui io sono Anolian e io non sono Anolian è successo in 2 ore. Vuol dire che se io aspetto altri mesi con lui, questa cosa può andare avanti e indietro all'infinito. Cioè lui un giorno si sveglia che sono Anolian e un giorno si sveglia che non sono Anolian. No, non credo. Non credo. Ciao. Se dorme legato tutte le notti, sì, si può fare. Se ti aiuta, ok. Legato, disarmato e senza suo oggetto magico. Tutte le notti. Beh, non ce l'ha. Lo sai benissimo. Veduto, non ce l'ha. Però deve continuare a non averlo. Tu chi sei? Sente il vento. Scusate, volete un po' di sbocco? La prima volta che sento parlare di oggetto magico lo sapevamo già. Beh, abbiamo detto oggetto magico. No, allora, in realtà, in questo momento direi che la cosa sensata è che ovviamente Giulio sa di avere l'oggetto, Salla sa che Giulia ha l'oggetto, ma Giulio non sa che Salla ha l'oggetto. Giulia ha l'oggetto. E voi pensate che l'oggetto sia stato distrutto. Io appena ho detto come sai anche tu. Sì, infatti ho detto di sì. Che non ce l'ha più. Sì. È importante che non ce l'abbia neanche in futuro. Beh, quanto futuro, ma in più. Beh, scusate, come farà ad avercelo in futuro se l'avete buttato a mare? Che ne so, io non sapevo neanche che ce l'avesse finché lui non mi ha detto che c'era l'oggetto. Io non so di magia. E poi non siete scesi per spogliarglielo e... Io ho buttato il suo oggetto in mare. Allora che ma problema non so c'è? Se ha altri modi per riaverlo. Io non mi fido di lui. Non voglio avere niente a che fare con lui. E semplicemente nel senso posso anche andarmene, nel senso potete anche abbandonarlo oppure continuare a proseguire senza di me, non c'è problema, non è che siamo obbligati a stare insieme, semplicemente io non voglio che rimanga su questa nave perché non mi fido di lui. Beh, ma al netto di doverlo buttare in acqua dovremmo aspettare comunque il prossimo porto. Sì, infatti va bene, sono d'accordo. Beh, magari riusciremo al porto di Arkham a trovare un buon esorcista o qualcuno che ci possa dare una mano, giusto? A quanto so, lui sta cercando di andare a nord per risolvere questo problema. Conosci qualcuno ad Arkham che ci potrebbe aiutare? Non credo. Voglia. Che ad Arkham potremmo... Che in Arkham potremmo trovare più che indizi per risolvere il mistero. Cosa sta facendo? Ho detto un boia. Sì, ma io non credo che lo sì, c'è un boia. Però, credo che lui magari sappia qualcosa. Non credo che potremmo trovare più che indizi. Beh, qualsiasi cosa ci può aiutare. D'altronde, non è colpa sua se la sua anima è stata traviata da qualche entità malvagia. E poi. No, l'entità non è malvagia. Come lo sai? No, ce l'ha solo con me, tranquillo. Forse non ce l'ha con te, ce l'ha con una persona che si chiama Anolian. Sono io. Tu sei un Anolian, ma non sei quello con cui io sono l'Anolian che dice lui, è per quello che ha cercato di uccidermi. A quanto pare non è... c'è uno scambio di persone. Tu non sei quell'Anolian. Io non sono quell'Anolian, va bene. Qui qua. E se si sveglia la mattina e dice tu sei quell'Anolian, cosa faccio? lui non si può svegliare la mattina, è l'entità. Se l'entità si sveglia la mattina e dice tu sei un Anolian, ti chiami Anolian, muori. Cosa che è già successa, tra l'altro. È stato uno scambio di persona. Sì. Va bene, tanto... Non durerà tanto. Non durerà tanto. Va bene. Boh, secondo me sarebbe interessante comunque seguire il viaggio e andare a vedere come va a finire la storia. Cioè, se muoio io, muore lui. Tu non muori. Vabbè, intanto arriviamo al porto, poi vediamo se trovate l'esorcista, faccio le virgolette. Ok. E da allora, fino ad allora vi pregherei di aiutarmi a sedare un pochino gli animi della ciurma. Non c'è problema. Vabbè, non si addice ad una nave del buon nome. Devi parlare con il mastro. Perché? Hai fomentato un ammutinamento per caso? Non ammutinamento, ho sempre detto che il capitano è nel giusto. Bravo. Lui non dice certe parole. Magari le sottintende vagamente. Se la sottintenduto, no, se i coloni hanno pensato a mutinamento, hai ragione, me ne vergogno. La malizia è nell'occhio di chi guarda, in questo caso nell'orecchio di chi ascolta. Sordi e ciechi. Molto bene, confido in te per tenere alto il morale della ciurma. Altissimo. Mi alzerò appeso all'albero maestro. Stavo per dire, se necessario li alzerò con delle corde. Se necessario li alzerò con delle corde, il morale. Okay. Al collo. Come, scusa? Delle cime, scusa. Va bene. Volete fare altro? Prima dell'arrivo al porto. Sì, ovviamente tutti i giorni io continuo a dire sta roba. Tu continui a... ok. Però adesso non dico più ammutinamento, cioè non dico più, ma è pericoloso. Okay, tu vuoi solo tipo fomentare questo animo. Ah, fino adesso ho detto queste cose qua. Dopo questa discussione dirò solo: ah, che sfortuna questa nave, ah, guarda che sfiga, il mare è mosso, guarda che sfortuna, e continuare questa menata. È vero, e forse sappiamo di chi è la colpa. Tu l'hai detto. Va bene, uno o due giorni dopo, ma mancano ancora 3-4 giorni per arrivare a Narken, e succede che c'è stato un giorno di mare molto mosso, che è stato, insomma, complesso da gestire. E il giorno proprio successivo, la notte, venite svegliati da... cioè, praticamente all'alba. Scherzavo. Da un colpo. Da un bel trambusto. Sì. Praticamente, se andate sopra coperta... Mm-hmm. Non dico niente, non dico niente. Sì. Va bene, e praticamente venite a sapere che c'è stato un tentativo da parte di un gruppo misto tra coloni e non tanti, per la verità 4 o 5, tra coloni e gente dell'equipaggio. Grande anche l'equipaggio, figo. Che voleva andare a praticamente a uccidere o a prendere sto Sirron. Ah, pensavo il capitano. No. È stato però fermato. Ah, pensavo il capitano, torno a dormire. Sono stati però fermati. No, dai, ma che seghe sono? Sono stati però fermati. E io ti guardo. Il capitano. Non c'è niente. Arriva con la pappalina. Che sta succedendo? Il capitano. Mi sono appena alzato. Praticamente questi 4 o 5 per questo ammutinamento li mette a morte. Che il capitano è una merda, non mette a morte quello, ma mette a morte... Beh, è più grave quello che ha fatto questo. Sì, perché questo è praticamente una sorta di ammutinamento. Ma no, loro semplicemente volevano... Oh, ma tu caghi sempre il cazzo, però lui fa comunque così. Andati contro gli ordini al capitano. E anche prima ha cercato di uccidermi quel cane. Beh, nessuno... Il capitano... ordini di uccidere. Esatto. Il capitano non l'aveva dato. Cioè, se ti avessi ucciso probabilmente sarebbe morto. Ma va bene. Il capitano... prendete tutti, diciamo, sul ponte e li butta in mare. Mi offro per eseguire la sentenza. No, questa è una questione della nostra nave, grazie, Rickard. Qui non c'entra il tuo amico. Cioè, o meglio, c'entra. Sì. E c'entrate tutti voi per il vostro fastidio, il fastidio che state arrecando. Ma è un problema nostro. È un problema. Non ha fatto niente. Non so meno dargli la benedizione divina prima che incontrino la fine. Se vorranno, potrai darlo, potrai dargli la benedizione. Ah, ovviamente, ma... ovviamente mentre lui fa sentenza, ammutinamento, io dico, sono un po' eccessivo, con quelli vicini dico, sto che il capitano ormai sta perdendo la busta. No, non dico mai questo, dico semplicemente, lascio intendere cose. Ci sta. E... non c'è 5 senza 6. Il capitano dice che la situazione... Oggi loro, domani chissà. Che la sua autorità è stata sfidata fin troppo su questa nave. E quindi mette a morte questa, che sia un monito per tutti i membri dell'equipaggio e soprattutto per i coloni a bordo, che sono degli ospiti. E dicendolo, volge uno sguardo verso di voi. Io sono lontano da loro, però. Allora volge uno sguardo verso di voi e poi, dato sei piccolo, cerca, ma non ti trovo. E... metto lo scudo a modo di specchio. E stabilisce anche che d'ora in poi ci saranno delle guardie la notte anche per gli alloggi dei coloni, e anche tipo l'accesso alla coperta sarà limitato ai coloni. E se sentiamo freddo? Se sentiamo freddo e fate delle battute stupide potreste comunque essere puniti, ma in modo più cruento della morte. Quanto personaggio non salta su una fa? Ti prego. Io puoi provare a convincere i 4 o 5 a farsi benedire da te. E cosa gli dici? Fatemi benedire. Temete voi la morte. Purtroppo la vostra vita sta giungendo a termine. Volete affidarvi alle forze più superiori per il vostro cammino all'aldilà? Allora, cioè, aspetta. Sì, vabbè, tanto fai. Persuasion. Cioè, è una domanda in realtà, perché non so bene per cui stai tirando. Per il modo in cui stai. Aspetta. Cercare di sottintendere. Aspetta. Per dove? No, la domanda è quella: c'è cioè, chi ti dice al diavolo le forze superiori, gli dèi. Non hanno portato che sofferenza nella mia vita. C'è invece chi ti dice, tipo, sì, una benedizione di Pelor potrebbe solo che giovarmi. E oppure c'è anche chi dice invece, tipo, il dio del mare mi accoglierà tra le sue braccia. Tu puoi farmi questa benedizione del dio del mare? No. E sono le ho finite, credo. Veramente, non intendevo quello. Io posso consacrare le vostre anime per il dio della tempesta. Risposta. Oh, tutti ti guardano tipo il dio della tempesta è sventura sulle navi, ma che ormai per noi è la sventura arrivata. Sei tu quindi un seguace del dio della tempesta? Se hai il favore del dio della tempesta è probabile. Il favore del dio della tempesta non è accomodato. La tua nave veleggerà. Lo dici a me come master o a loro come giocatore? No, a loro come personaggio. Va bene, dimmi quello che vuoi dire, poi tira per persuasion. Ah, ritiro. No, cioè, fammi il tiro, cioè dimmi cosa gli vuoi convincere. Adesso ti dico il risultato, poi dimmi come... Puoi ritirare se vuoi. Ma sempre la stessa, non è salita, vero? Sarà qua. Attenzione. Noi siamo al quarto. Bambino 14. Ok, ma cosa dico? Ok, ma il dio della tempesta è un dio antico e che al suo favore veleggerà verso porti sicuri, perché la sua nave sarà bastata. Ma noi dobbiamo nuotare. No, le vostre anime veleggeranno verso il cielo al posto di sprofondare negli abissi. Un paio di loro riesci a convincerli a farsi benedire da te, perché alla fine non hanno più nulla da perdere. Gli altri invece ti dicono: via, galoppino della tempesta, il tuo posto non è sulla nave, come non lo è per noi a quanto pare. Quelli del dio del mare li benedico io. E va bene, puoi benedire quelli del dio del mare. Grazie. gli aggredite. Una nave di cazzo di fottuti preti. E dopodiché vengono buttati in mare. E niente. E nei giorni successivi l'aria è molto tesa, cioè c'è proprio chiaramente tensione. Vi rendete conto che anche all'interno dell'equipaggio c'è chi, diciamo, non è molto convinto delle scelte fatte dal capitano, e molti dicono che Cabe fortunatamente ci ha protetto, ma chissà cosa potrà continuare nel dico resto del viaggio. Dico altre due cose. Una, dico, la non, parola secondo Cabe non alle stesse persone, queste cose le dico a persone diverse. A alcune gli dico che appena si può anche rischiare, aspettare di arrivare a terra e poi ucciderlo per evitare che altre sventure vadano verso altre persone. Qui vuoi proprio tramare, quindi vai, fammi un persuasion, direi. Cioè vuoi dimmi che vuoi organizzare una specie di gruppo. No, dico che sarebbe meglio forse vai, persuasion. Se trovo la scheda sì, volentieri. Intanto no, persuasione no. 12. Dice, beh sì, forse sarebbe prudente, ma prima è meglio sarà. A un altro gruppo di persone vado a dire che forse c'è un modo, visto che ora ha messo le guardie, forse c'è un modo per raggiungere quelle guardie, cioè intendo sottintendo corromperle oppure fare in modo di che si andano dalla parte giusta. E tu Cabe ci darai una mano in questo? Ovviamente. Ovviamente. Questa, no, ma scusa. Questa è sull'ovviamente. No, ma scusami, ok, tu vuoi convincerli a fare, ok, va bene, vai. A farlo adesso, vai. No, non adesso, no. Cioè, in questi giorni a vedere se qualcuno conosce le guardie e può fare in modo di... Quindi stai cercando, stai facendo un'investigation tu di fatto? Sì. Ok, quant'è? 4 praticamente sembra che nessuno sulla nave si conosca. Vabbè. Da quello che hai capito il capitano praticamente ha scelto i suoi fedelissimi per fare la guardia al prigioniero, e quindi siccome, soprattutto visto le spaccature che si sono create, si comincia a creare un po' di diffidenza all'interno dello stesso equipaggio. Secondo quelli con cui hai parlato sembra essere molto difficile raggiungere le guardie, però magari mettendosi in molti i tanti possono sconfiggere i pochi. Però io l'unica cosa che dico quando mi dice così è magari. Queste e sono poi le informazioni che racconto. Lui quando dice magari è meglio essere in molti per convincere i pochi, io dico magari, e poi me ne, cioè poi smetto di e vedo come si evolve la cosa. Arrivo subito. Diciamo che si evolva da sola. Con quei tiri che fai non si evolverà mai. Ho capito, ma porca troia, guarda qua, 7. 1. Beh, uno lo potevi ritirare. È il tuo dado, ma potevi anche dirmelo, cazzo. Datemi degli altri dadi. Dadoni. Per fare i numeroni, quello serve. Bravo, Las. 5. Solo che Vezio mi ha detto che non posso uccidere Shio sta sessione, quindi andiamo avanti e basta. Perché non è presente, quindi non posso ucciderlo. Ciao Shio. Ciao Shio. C'è ancora migliore della plot armor. Sì. Ciao. Questi tentativi di Salla di uccidere Shio. Non voglio uccidere Shio. Comportamento eroico. Voglio che qualcuno lo uccida. Beh sì, non sono mica scemo. Scusa. Allora vi sparo una. Acqua. Birra. Coca. Faccio Vezio. Va bene, allora se non ci sono altre cose che volete fare, ci sono altre cose che volete fare? No. Ok, continuano questa tensione, ma non accade nulla di oltre. Ci sono dei momenti di piccola tensione all'interno dell'equipaggio. Voi notate i coloni. Diciamo che per voi è diventato meno piacevole. Cioè, per te, Cabe, non è cambiato troppo alla fine, se non tu in cabina. Anche se. Ah, l'altra cosa che avete notato, quando sono gettati in mare gli uomini, praticamente il capitano si era rivolto anche ai reclutatori e gli aveva detto: e voi, messeri reclutatori, mastro reclutatore, uno dei due reclutatori, ha detto, Boldrek, cerca di tenere in riga i tuoi. Grande, io sono stato pagato per portarvi lì, non certo per fare da balia ai tuoi. Ma non c'era scritto video morto portarvi lì. E quindi lì aveva proprio preso a muso duro con Boldrek. E Boldrek in generale ha cercato comunque di parlare con i coloni dicendo: vabbè, ragazzi, un po' pazientate per queste restrizioni, alla fine non siamo tanto lontani dalla meta. Cerchiamo di non fare casini. Il capitano. Il capitano è molto adirato, avete visto. Però si porterà comunque. Siamo vicini a terra, ho sentito delle palle. Quindi Salla, cosa c'è? Scusa? No, niente. Va bene. E. E con te, Cabe, il reclutatore, visto che comunque lo vedi più spesso degli altri alla fine, essendo sopra coperta, ti chiede un po' che cosa sia successo esattamente con questo tuo amico. Niente, ha provato a uccidermi. E non mi ha dato una spiegazione. Sembravate così amici, no. I giorni scorsi, eravate sempre in giro insieme. Sì, ma non amici. Spesso abusiamo della parola amici. Tanto non si sta ascoltando altro. Questo ha senso, ma quindi gli hai fatto, pensi di avergli fatto qualcosa? Il problema è questo, che io sono preoccupato non per il fatto che, vabbè, ok, è insulso e non conta niente, però la cosa che mi preoccupa è che non mi ha neanche saputo dare una spiegazione del perché è impazzito tutto un tratto, per quello penso che sia posseduto da un demone, da un'entità sconosciuta, che vuoi tu? Sembra una cosa molto, molto sinistra. Vuoi che tiri sulla girare? Sì. No. Ok. Sembra una cosa molto sinistra. Non sono una brutta persona, è vero. Lui non mi ha dato una motivazione. Ma dici che non. Ho sentito dire che avete buttato un oggetto in mare e dici che non è terminata la cosa con quello. Forse sì, forse no. Ha visto il cattivo tempo, ha visto. Beh, niente di particolarmente strano per la tratta, tutto sommato. Non abbiamo avuto particolari tempeste. Ho chiesto un po' in giro, non sono l'unico che la pensa così. L'unica cosa particolarmente sinistra che ci è capitata è stata quella dei pirati. Quella sì, effettivamente non l'avevo mai visto. Neanch'io. Però sì. Beh, tu le avventure, Cabe, chissà quante ne avrai viste. Non mai pirati con un teschio. Mi ricordo una volta di stregoni e di amici elfi che morivano. Immagino vecchie grosse avventure da raccontare attorno a un fuoco, insomma. Sì, e appunti che ora non ho al momento scritto. Sì. Ok. Va bene. E no, quello che dicevo è che magari siamo al sicuro ora, però capisco anche che. Cioè, il fatto che si nutrano dei dubbi e dei sospetti su di lui. Alla fine, cosa ci dice che siamo al sicuro? L'oggetto magico o la pazzia di un uomo? Quindi ritieni che il capitano non abbia fatto la cosa migliore? No, il capitano ha fatto la cosa migliore, è in una brutta posizione e deve riuscire a risolverla al meglio che può. Tanti sembrano pensarla così. Lo so. Chissà perché. Ormai agito così. Quello che possiamo fare magari è provare a convincerlo a rivedere la sua decisione o provare a resistere fino al porto a nostro rischio e pericolo. Non so se è il caso. È comunque la nostra vita contro la sua. Capisco. Chi è lui? Sì, beh, il capitano sembra essere presa un po' sul personale quando è così difficile fargli cambiare idea. Io sono in una posizione un po' scomoda perché, come hai sentito... Sì, sì. Chi è questo personaggio? Sto parlando con te. Ma scusa, tu non sei un cazzo di assassino, ma quanto vuoi assassino. Per andare a ucciderlo? In questo non sono un assassino. Come? Sono un ladro. Beh, ma l'archetipo è assassino. Sì, vabbè. No, non quello. Sai, criminale. No, l'architettura. Sì, vabbè, ma quella è per le skill, sì, non no, per. No, ha ragione Laz. Da background non è assassino. Non è assassino, è background. Non mai ucciso nessuno qua. Tranne 200 skill. Esatto, a parte quello. Due demoni e alcuni esseri di acqua. Erano tutte la stick. Quello è il nome delle skill, no? No, ha ragione Laz, purtroppo. Va bene. E io ho sentito che avevi un amico assassino. Beh, in realtà c'è un altro assassino sulla nave. Lex persona di Shea. Di ghiaccio. È vero che sta male sì, dall'inizio. Però non so se lui fa l'assassino di lavoro, non l'ho conosciuto. Hai ragione, non stavo così. No, non lo so, ho capito se è una brutta posizione o possiamo anche provare a... No, no, nel senso che ovviamente sì. Come sai, sono stato, come hai visto, il capitano si è arrabbiato anche con noi, perché... Però diciamo che ok, volevo parlare con te per sapere un po' com'era la situazione, adesso cioè, ho idee un po' più chiare, ecco. Voi ragazzi comunque cercate di non mettervi nei guai ulteriormente, perché comunque ho visto che siete persone valide e penso che sia importante per noi che voi riusciate ad arrivare alle colonie, perché sarete... Lo dirò al mio gruppo. Ok, grazie. Mio okay. Gruppo. E comunque sì. se avete bisogno di qualcosa fammelo sapere. Ah, grazie. No, sto benissimo nella cabina che il capitano mi ha lasciato. Ah no, quello purtroppo non è il mio potere. Il capitano sì, ti ha lasciato quello sputo di cabina, ma sai come per lui è quasi generosità. Sono piccolino, va bene. Va bene. Dopo un altro 2-3 giorni arrivate finalmente al porto di Narcain. E io se lo rincrocio glielo dico che ha sulla coscienza i morti. Che morti? Ah. Quelli gettati in mare. Ma li ho uccisi. Ma è vero! Matta no. Avrebbe voluto averli sulla coscienza. Tu! Eppure Benedetto. Magari non sei stata... Come scusa? Non c'è stato la lama, non c'è stato il quadrello di balestra che gli ha colpiti, ma c'è stata la mano che l'ha armata. Oh, non ho mai influito nella mente di queste persone. Dente di squalo che gli ha squarciati. Beh, io gli ho insinuato un ragionevole dubbio e poi loro hanno agito di conseguenza. Non sono responsabile dell'azione di tutti. Se no, sarei anche responsabile delle pazzie del nostro comune amico. No, perché lui non ha insinuato il dubbio. Oh sì. In realtà è tutto un giro. Che ho provato a uccidermi per fare tutto perché voglio la nave. Comunque no, non capisco perché te la prendi con me. È colpa del capitano, è lui che non è riuscito. Non la prendo con me, non mi interessa. Con te. Stupido Giulio, stupido. Con te. Non mi interessa particolarmente che fine fanno questi uomini. Perfetto, hai anche giocato. L'importante è poterli benedire, esatto. Ma il grande gioco. Il grande gioco. Guarda il fatto che se tu non avessi detto certe cose non sarebbe creato un certo clima, certa gente non avrebbe fatto quello che ha fatto. Senti, a proposito di certe cose, visto che a quanto pare non hai molto da fare sulla nave, vai a vedere se l'eredità del nostro comune amico è interessante o no, e poi me ne vado. L'eredità del nostro comune amico. Giulia ha capito. Le robe di... Sceo. Le robe di Sceo, dovreste prendere la no, scheda. Mi riferisco soprattutto all'oggetto magico. Vabbè, non ha capito, quindi me ne vado lo stesso e lui non ha capito la cosa. Rimarrà nel vuoto. Andiamo a cercare in città qualcuno che ci possa aiutare a risolvere questo... Siamo tra casa. Ora arrivate al porto di Narcain. Siete al porto di Narcain. Allora, vi viene detto che di fatto bisognerà attendere 3 giorni per ripartire. Un po' era, tra virgolette, previsto, ma diciamo che è anche dovuto al fatto che comunque la nave un minimo di riparazione in più ne ha bisogno per via dei problemi riscontrati con i pirati. Comunque io nei giorni che passano qualche test per vedere cos'è quello scritto lo faccio. Cioè io so che non sono riuscito ad aprirlo. Ok. Però nei giorni successivi tanto tempo, no? Sì, non, però non riesci, cioè effettivamente capisci che ha una forza, cioè una magia potente che lo... Mi faccio un test di religion giusto per vedere se qualcosa... Non importa che lo fai. E non ti viene, cioè non pensi che sia legato a una, non sia una magia divina, comunque di origine divina in ogni caso. È probabilmente una magia di alto livello, però non riesci a capire bene come funzioni esattamente. Cioè, quell'unica cosa che sai è che sicuramente questo scrigno non si apre e probabilmente c'è, cioè, anche tipo colpirlo con un'ascia, eccetera. Con l'anello. No, cioè magari può anche rompersi, però non cambierà. Ah, rimane uno scrigno rotto. Sì, no, può essere, cioè non ne sei sicuro, però probabilmente non spezzerebbe né l'incantesimo. Dentro non si sente se c'è qualcosa. No, ti sembra, il peso che ha è quello di uno scrigno veramente leggero, quindi o vuoto o comunque... Devo fare il bilancino, fare il cibo. O comunque... con poco peso dentro, no? Se lo scuoti non senti nulla. Di legno? Sì, è di legno con vari intarsi, però è anche... sembra molto rovinato anche. Come se... cioè, è strano, perché ha tipo delle fessurine piccole, tra l'altro quale non riesci bene a vedere, cioè sono solo tipo delle crepe. Come se qualcosa avesse provato a uscire da fuori, non so come dire, in qualche modo. Però potrebbe essere anche una tua suggestione. Cioè, però non hai capito bene. Diciamo che un occhio... cioè, non sai molto su questo. Un'opinione su questo potrebbe esserti utile, se vuoi sapere di più. Allora, da Anarkhan appunto vi viene spiegato che dovete stare 3 giorni fermi. Da quello che avete capito, Sirron rimarrà... sotto guardia sulla nave, e questa volta non è permesso ad altri che non siano membri dell'equipaggio di ritornare sulla nave durante il soggiorno. Scendiamo finché non ripartono, risaliamo. Esatto, e se avete problemi, viene detto che se avete problemi di conio per pagare eccetera, come che non vi riguarda in realtà, potete rivolgervi ai reclutatori. E in linea di massima la maggior parte della gente vi viene detto un'altra cosa prima, vi viene soprattutto da parte del reclutatore, vi presente di stare attenti in questi giorni, perché Narcaen, come sapete, non è un porto della Saradovia ma della Libeca, e qua, per quanto sia un porto dove girano tantissime diverse persone, diversa provenienza, i saradoviensi in generale dai locali non sono molto ben apprezzati. E vi avevo già spiegato un po' la storia di Narcaen, mi pare. Mi fate un tiro di storia. Sì, fate un tiro di storia. La intelligenza 15, 12, 20. 10. Allora, Narcaen è il porto principale della Libeca. E la Libeca, queste cose forse ve le ho anche già dette, ma ve le ripeto. È un'isola che, diciamo, in antichità diciamo non era un'isola di navigatori o mercanti, ma più di pescatori o comunque gente che viveva all'interno. Molti vivevano all'interno perché per difendersi dai saccheggi e dal razziare da parte di quelli che poi di fatto erano gli antenati dei saradoviensi. Che vivevano appunto in quelle dove sono quelle colonie dove voi andrete, e per questo loro sono sempre stati un popolo che, diciamo, più all'interno, senza grandi porti. Il porto di Narcaen di fatto nasce, diciamo, come principio da una piccola cittadina, ma è stato di fatto edificato dai saradoviensi quando avevano conquistato metà della Libeca, adesso invece però è tutta la Libeca è tornata a essere indipendente, però per un periodo storico mi pare 150-200 anni fa è stata per una cinquantina d'anni almeno sotto la Saradovia, a metà, okay. E quindi lì, siccome invece i saradoviensi sono gente di mare che crea porti, eccetera, hanno creato, cercato di creare questo porto di Narken. E una delle peculiarità era che, siccome appunto era un paesino piccolo, molti, diciamo, dei primi edifici non erano edifici, ma di fatto relitti, navi. Per cui questo lo vedete ancora un po', cioè è come se tipo alcune diciamo case fossero o parzialmente o totalmente di fatto ancora delle navi o delle parti di navi. Per cui sulla strada vi capita di vedere, adesso sono meno ovviamente perché nel corso degli anni la cosa è cambiata, però proprio dei pezzi di nave tipo dentro le case sembrerebbe, o comunque delle navi di fatto che fungono da edifici vicino al porto. E per cui in realtà qua è un porto un po' franco in linea di massima, e quello che voi sapete anche è che comunque con un questo po' fatto, guido magari. Con male. Questo fatto delle colonie, il diciamo è comunque si sta arricchendo, perché comunque dire, passa, c'è molto franco, passaggio. Io porto guido. Anche sì. Però diciamo che in futuro potrebbe diciamo risentirne, e perché comunque l'idea della Saradove sembra quella di creare dei porti forti che potrebbero fare da concorrenza, forse. E quindi sì, effettivamente i locali non hanno grande amore per i saradovesi, quindi già ci sono, bisogna stare un po' attenti in questo senso. Un pecchino. Però in realtà, per il resto è più o meno un porto come un altro di media grandezza, dove comunque si può trovare un po' di tutto. È più grande sicuramente di tutti e due i porti che avete visto precedentemente, tranne quello di partenza che invece era estremamente più grande. Verso che ora arriviamo? Arrivate in tardo pomeriggio, più o meno la sera. Ci indica una qualche posto? Sì, tutti, praticamente quasi tutti si vanno appunto in questa zona dove ci sono varie locande, e quella che sembra andare per la maggiore è di fatto la locanda del relitto del principe. Di fatto è come se tipo ci fosse una prua della nave che è praticamente incastonata in un muro che esce fuori, praticamente sopra il passaggio del porto, e praticamente c'è la scritta tipo principe Henry, l'ho già fatto, principe Arrick con l'H, e quindi probabilmente questa era una nave una volta, si chiamava così ed è stata diciamo riadattata. Sembra quasi che tu non abbia un generatore. No, beh, perché comunque quelli più o meno... Io anche io mi dico. Principe? Arrick con l'H. Ola con l'H. Caso piccolo. Già. Diciamo che in realtà è anche era moderatamente noto. Però beh, questo non mi interessa. C'è tutti i soldi, beh. E... Sì. No, la gente stava lì per un po'. Un po', non tutti. Spero, no, perché sennò io non ho un soldo. Io quando arriviamo dico, volete accompagnarmi a cercare di mettere un primo tassello nel mistero di Sirron? O... Sì, avevo detto andiamo a cercare qualcuno che ci possa aiutare in questa. O tu vuoi continuare a cercare di aizzare gli animi? Io non aizzo gli animi, apro le menti. Sì, vabbè. Come vuoi? Scorpio, certo, quello lo faccio io! Come preferisci definire? Dove vorresti andare? Dov'è che ne ha detto questo? Cioè, mi ha detto più o meno delle indicazioni. No, in realtà lo puoi chiedere. Di chiedergli questo Garin. Dobbiamo cercare questo Garin. Chi è Garin? Non lo so. Diciamo che sicuramente forse alla locanda... Conoscenze bardiche! No, non è vero, non ci sono più. Vai. Alla locanda probabilmente qualche informazione potreste raccogliere, perché sembra esserci molta gente. Sembra essere una locanda molto... Boh, io non sono molto convinto, però lo seguo. Che cosa? Ha detto di seguirlo per cercare di capire lui cosa... Lui è il primo a cui ho detto. No, sì, però per avere informazioni tra questo probabilmente le potrete trovare o alla locanda o andando in giro per la città. Bene, andiamo alla locanda. Da troppo tempo le mie labbra non toccano una buona birra e una buona bevanda e un buon pellicano. No, una buona birra e una buona bevanda. Va bene, Vabbè, possiamo iniziare la ricerca della locanda. Allora. La locanda è molto pittoresca perché di fatto sì, c'è questo ingresso, diciamo, all'interno praticamente della prua. Dentro in realtà c'è anche mattone, eccetera, cioè una struttura è stata costruita di fatto, però rimane l'interno in legno, pezzi proprio della nave, eccetera. È abbastanza grande, c'è davvero tanta gente, soprattutto adesso che siete arrivati voi e molta gente sta andando. Vi viene detto che se volete però c'è spazio per avere, diciamo, una stanza per tre notti, se volete. Quanto costa? Quanto costa? Questa ultima domanda. Vabbè, ci pensiamo. Non mi ricordo mai, una moneta d'argento costava una notte, non mi ricordo. Vabbè, se il prezzo standard, mi interessava sapere quello. Ciao Giulio, come tiri il dado tu Giulio non lo fa nessuno. C'era un po' di parte questi commenti, Ma chi è? Giulio. Giulio sì. È Giulio che se lo dice da solo. Sì. Io per l'altro non mi ricordo come faccio a condividerlo su RGDR. Condividerlo sul tuo profilo. No, sta l'istante con tutti. E no, non so. Tutte le volte mi scordo. Catami. E vabbè, sì, vi potete, se volete star lì tre notti, beh, adesso magari il fatto che se la nave vi chiedono un po' di più, vi chiedono 5 monete d'argento a testa. Questo è un classico. No? Però avete i pasti. Allora io tolgo da quel secondo. Quanto togli? 5 monete d'argento a testa. Non ce le ho, certo. Per 4 siamo. Senti. 2 dollari. Privata contabile. Ci sono i pasti. Poi se volete bere di più dovrete pagare. Sì. Va bene, Giulio, tu mi cerchi informazioni, giusto? Sì, mi fa anche gli altri cercare. Sì. Okay. Cerchiamo in giro chi notizie di questo Quill. Garin. Investigation. Quill invece chi è? Cos'è? Nessuna investigation. Investigation. Sì. 17. Sono per bravo. 15 più 2. 11. Siamo cose. Investigation. Sì. È sul carisma invece. No, è sul carisma. Però potrebbe essere carisma se lo faccio con carisma. Cioè intrattenendo gli vai altri. Sopra sul tavolo, ditemi subito dove trovo Garin, devo sfidarlo a duello. Anche va bene. Allora Garin, sì, vi viene detto più o meno dove potete trovarlo. Chi vi dà l'informazione è gente un po' lusca, sembrerebbe. Sì, Garin, quindi siete qua per, insomma, vabbè ognuno ha i suoi traffici, insomma. Sì, lo potete trovare. Adesso penso che sia un po' tardi, ma vi fanno comunque, vi spiegano dove potete trovarlo il giorno dopo. Katta, tu non scopri molto su Garin, però una cosa ti pare evidente. Al bancone c'è una persona che tu riconosci. È tua sorella. È un tuo vecchio amico. Che non serviva nel tuo stesso equipaggio, okay. Ma era comunque della tua gente, okay. di un'altra nave, che si chiama Paxter. Paxter? Esatto. Ah, il caro vecchio Paxter, ma io lo conosco, tipo di fama? Era un tuo amico, era un tuo amico. È un tuo amico. Se non ti ricordi gli amici. Esatto, infatti stavo per dire quello. Questo bisogno. È quello di cui si è disfatta la sorella. Ah, fatto la sorella, poi... La zia e la cugina. Poi si è ammutinato. No, non era nel tuo equipaggio, però probabilmente sa cosa è successo al tuo equipaggio. Ok. Lui mi vede? O è indaffarato? Sta servendo al bancone? No, è al bancone che sta bevendo. Ah, bene. Allora gli arrivo da dietro e gli tiro un pacco sulla spalla. Di quelle... Dai, ma cosa hai? 12 anni? È vero, perché l'AS non fa niente, però tipo ogni tanto fa magari una pessima idea, oppure sapete quanti soli ci sono? Saranno soli. Saranno soli qui soli. Vabbè, no, arrivi da dietro soli. E gli tiro una pacca. Paxter, vecchia moffetta di mare. Quica! Che cazzo è una moffetta di mare? Adesso voglio che sul dungeon, il manuale del master ci sia la moffetta di mare. Manuale dei mostri sia la moffetta. Sì, CD 12. Sigo. Tira sulla costa. E... perché è grosso. Allora... sì, lui ti dice, Quakart, non ci credo, cosa ci fai qua? Qua, il porto, questo porto sperduto. Vabbè, che poi per voi più o meno sperduto. Ah, le maree mi hanno portato da queste parti. Ti sembra contento, ma anche stupito di vederti. Beh, dubiti forse che... tipo una puzza affogata. Questo vecchio avanzo di... Pontiglia, non sia... di Pontiglia. Pontiglia. Pontiglia. Non, parla no. Come mangi. Ah no, scusa. Esatto. Non riesca a farsi vivi in qualsiasi angolo del mondo che lui voglia. Quakart è incredibile, sì. Vedo proprio che la tua armatura in effetti sembra aver subito... sì, ne ho visto un po' di cotto e di crudo, soprattutto di crudo. Cavolo, però ascolta, cioè, molto, fa molto il gioviale con te, però a un certo punto si mette un po' più cauto e ti dice, Quakart, però... sapere che sto uscendo. Onestamente tu, qua, sì, cioè, è meglio essere più buono. Ma dove posto stai di merda. Andando, scusa? Oh, sto, ma non diremo che posso farmi una vita Singapore 2. Non posso fidarmi di lui. Quello che dico... ah, non devo dirlo. In massima sì... ovviamente è segreto, come segreto, stai giustamente dicendo tu, è meglio non spargere la voce della mia presenza in queste terre, non vorrei che arrivi ad orecchie. Sì, Quakart, questo che volevo dirti. Qua adesso è meglio poco raccomandabile. Qui ci sono troppe orecchie che possono ascoltare. E ogni persona ne ha due, penso. Fammi strada, allora andiamo in un posto più non adesso, Quakart. Vabbè, questa era semplicemente una constatazione. Non sarebbe saggio. Ascolta, facciamo così. Dammi il luogo. Ora io ti offrirò una birra, che è quello che ti meriti. Sei un furetto. Ma facciamo così. Tra un paio di giorni, tu sai già quando arriva. Giorni. L'alba del terzo giorno, tra un paio di giorni, troviamoci alla bettola della cozza ammogliata. Ma sei qua, da solo? Mi sto facendo accompagnare da qualche mio... occhio a quello che dici. compagno di viaggio. Beh, magari tieni vicino anche loro. Okay. Non si sa mai. Ci troviamo lì, ti dice l'ora del gufo. Che c'è? E... di notte. Non vuoi notare un po' di cocco. E ci vediamo l'ora del gufo alla bettola e potremo parlare con più calma e di alcune cose. Nel frattempo cerca di non metterci le casini. Grazie caro amico, a proposito, sai dove trovare Casini? Garin? Garin? Oddio, credo che sia una specie di trafficante di oggetti antichi, però no, non lo so. Però penso che poi puoi scoprirlo in giro. Cosa ti serve? Ma diciamo che è un oggetto strano. Devo far valutare gli oggetti. Ho capito. Poi ti do un dito. Guarda, in questo momento io non lo so perché non è il tipo di dito. Quando ne ho bisogno, me ne ma... sicuramente qua troverai chi lo conosce. Molto bene, è stato un piacere vederti, vecchio lupo di mare. Anche per me, amico, a presto. Ciao, bello. Ciao, bello. Ti offre una birra e poi dopo si saluta. Va bene. Ok. Cosa volete fare? Va bene, ci riposiamo, andiamo domani, magari. Va bene. Altre cose? Se magari io ho visto che stava parlando col tizio, gli chiedo via. Sì, può essere che abbiate visto parlare con loro. C'è una via da aprire. Sì. Un mio vecchio amico di un'altra vita, di altre acque. Che sono queste acque? È ancora mio amico, certo. Ci possiamo fidare di lui. Lui ti ha consigliato di portarti quello che intendevo, dietro. Okay. Quando potrebbe darci una mano, mi ha detto di andare alla locanda della bettola, sì. Della cozza ammogliata, della moglie accozzata, tra due giorni. Non credo sia. Questo sono io quello stupido. Sai che devo fare un disegno? Devo se ero rato, se poteste venire con me, potrebbe per fare questo disegno. Mi è venuto in mente ieri. Dopo che risolviamo questa faccenda di Gary, cosa devi fare? Va bene. Vuoi altri fare altro? No. Battute i lati? No, gliela faccio promesso da lui. Paura. Va bene. E... il tuo amico. Il cibo compreso. Sì, il cibo compreso, bere a extra, diciamo, cioè avete un po' da bere, ma se volete bere di più dovete pagare di più. Ma tipo compreso un boccale di qualsiasi cosa o solo... cioè, non lo dire, solo il disegno finito verrà sì. mostrato. Poi una bevuta, che sia di birra, idromele o... no. O vino e una bevuta, cioè. Però diciamo se vuoi di più ma intendi proprio sì, sì. Che stronzata. Va bene, ci siete? Non lo so. Non lo so, forse gli psicofarmaci sono finiti. Che stronzata. Dovevo fare oggi in treno per non ero seduto, quindi vuoi questo? No. Ce la vuoi dire? O... no, vi devo far vedere questo disegno. Mi deve dare una mano lui a farlo in caso. Vi farò vedere il disegno, sarà bellissimo. Se c'entra una bottiglia. Sì, sì, ovvio. Se c'entra l'alcol. Vai. Va bene. Scusa, non ho capito cosa ti ha detto il tuo amico, però. Non c'era. Appuntamento non c'ero. Tra due giorni alla bettola della cozza ammogliata. Sì, ma perché il tuo amico? Perché è mio amico. Cioè, da quanto è tuo amico? Perché è qua il tuo amico? Chi ti fidi di lui? Sì, sì, sì, sì, ha detto che sì. Vabbè, allora vabbè. Ma ti serve. Ti serviamo noi? Mi farebbe piacere se potessi venire con me. Ma se non ci porti neanche show. E cosa hai portato? E va bene. Quindi è andato a cercare il Garen, giusto? Sì. Ok. Allora, scusate, non sono riuscito a farcela. Oh, mi ricordo mai. Voi non sapete come si fa, no? Sai che? Non riesco a condividere su. Devi usare un computer, ragazzi. No, si fa anche da qua. Scusa, se entri come. Scusa, non potevi dirmelo a me che lo faccio io. Puoi farlo tu? Sì, sì, fallo tu. Bravo. Due ore. Sì. E sì, va bene, bravo. Allora sì, voi cercare Garen, sapete dove andare. Vi inoltrate un po' nella cittadina di Narcan. È per lo più porto, quindi non c'è tantissimo di città, ma ci sono questi vicoli molto stretti, un po' anche cupi. Non è una città particolarmente bella, però sembra proprio fatta un po' così, come capitava. E Salla, vuoi partecipare con noi al gioco? No, ti guardi il suo programma che sì. Non lo so, è un fan art? O... non lo so, però lo guardate e poi ho dovuto aspettare 10 minuti per riprendere. Ma cosa? Dopo lo vediamo. Un video che ha postato la pagina di Rick e Morty. Va bene, e... arrivate a questo negozio. Scusami un secondo, ti disturbo una volta sola per dirti, vuoi che ci scriva qualcosa? No. E sul arrivata a questo negozio sembra una bottega, sembra praticamente direste che è chiusa, però potete provare comunque. Inizialmente non ti risponde nessuno, poi senti dei passi e si apre uno spioncino che dice: cosa volete? Cerco Mastro Garen, devo sottoporti della match. Vendere o comprare? Vendere, quindi. O esaminare? Esaminare. Ok. Chiude e ti apre e vi fa entrare. Entrate in questo negozio molto particolare, proprio oscuro, c'è illuminato da candele, un casino assurdo di oggetti sparsi, cioè senza quando un momento posso fare un tiro di rubare no di cercare. Cosa vuoi cercare? Se c'è qualcosa vuoi di interessante. Vuoi fare un perception? Sì. Vedere. Vai. Sì, sì. Adesso subito va bene? Sì, cioè se vuoi. Dopo guarda se l'ho fatto. 10. 10. Ma vedi tanti oggetti. Nulla che attirano l'attenzione. Ma ce ne sono molti che attirano l'attenzione. Diciamo che non sai bene cosa possono essere. Ok. Cose, diciamo, d'oro, preziose, non ti sembra, però tanti oggetti esotici, lampade... Tipo tutte ampolle, anche, battoli... Anche, esatto, tante di queste cose qua, sfere di cristallo ti sembrerebbe, alcuni oggetti ti sembrano chiaramente rotti, onestamente. Mm. Vedi una mano mummificata, inchiodata su un coltello... Okay. Poi ci sono delle ragnatele, ma quelle che pensi che siano semplicemente che il negozio è un po' curato. Decorative. E ok, pentola di magia oscura starter pack. Vi ha aperto questo energumeno che vi dice di pazientare un attimo che Gary sarà da voi. Okay. Va di là e arriva questo vecchietto che dice: chi è che voleva vedermi? Siamo in quest'ora scellerato. Due vecchietti. No, io sono come degli avventurieri. Come venite? Io vengo da... Io sono Kate Brangwine. Siamo giunti con la nave ieri a porto. Cosa posso fare per voi? Beh, aiutare a svelare un mistero. È la mia professione. Tiro fuori. Mi siete stato indicato voi come esperto o comunque una persona che potrebbe aiutare. Beh, sì, da queste parti, se avete un mistero che riguarda le arti magiche, sono io quello da contattare. E gli borgo a scrivere. Lo prende. Interessante. Dovrei esaminarlo. Si mette tipo al bancone. Prende fuori un piccolo occhialino per guardare, una lente e comincia a esaminarlo. E ogni tanto borbotta fra di lui, fa: interessante. Come ne siete venuti in possesso, se posso chiedere? È di un nostro compagno, per ora. Da che nave avete detto che venivate? Lotaria. Interessante. Lotaria, da quel che so, va alle colonie del nord. Esatto. E anche voi andate dalle colonie o sono solo a passaggio? Sono un passaggio per venire qua. Ah, no. Stiamo andando alle colonie e anche il proprietario di quello scrigno stava andando. In teoria si sta ancora andando. Per quanto qualcuno stia provando a non farlo arrivare. Beh, questo, come sicuramente saprete già se siete venuti da me, è un oggetto di grande magia. Mi scusi, continui pure. Questi oggetti venivano costruiti per imprigionare delle forze al loro interno. È un processo complicato, una cosa che adesso ovviamente non si vede più, sono cose un po' vecchie, insomma, ma erano molto potenti un tempo. Hanno bisogno di una sorta di catalizzatore, una forte energia magica, e di solito prevedono anche qualche forma di sacrificio, perché comunque devono attingere grosse energie, ma sono in grado di, volendo, anche di imprigionare un'anima o comunque un'essenza di qualche tipo o anche una forza. Certo, questo mi sembra abbastanza mal ridotto, non credo che sia funzionante. Però dentro sembra... c'è qualcosa. Posso dirti che è funzionante? No, dentro c'è qualcosa. Come puoi dirlo? Perché... Vabbè, non so se vuoi prima rispondere a mio compagno. Dentro all'oggetto c'è ancora un'anima. Piccolino? Piccolino. Dentro all'oggetto c'è ancora un'anima, c'è ancora qualcosa. A me, come potete vedere, è molto danneggiato, quindi penso che potrebbe essere stato utilizzato e adesso sia desueto, oppure è semplicemente danneggiato, ma non penso che contenga nulla. Capito. Però è un oggetto interessante. Quindi c'è qualcuno da buttare, beh, in mare. Potete fare un insight se volete. Ah, per quello che bastardo. Anche, anche io che non ho cose magiche. Boh, dipende, stavi ascoltando o ti stavi scaccolando? No. Lì. Non chi si sta, può scaccolarsi. Chi stava ascoltando può fare un insight. Di solito non ascolto col naso, quindi. Oh. Cos'è un allora insight? Percezione. Insight. Sì. No, no, insight è insight. Oh, 20 di dado. Mamma. 16. 1 più 6, 7. Ok. Quanto sa la 16? 16. Mm. Secondo te, Laz, cioè, non dice tutto. Non è proprio non è proprio sincerissimo su tutto. Cioè, o vi sta nascondendo qualcosa, o vi sta dicendo una verità parziale, ne sa qualcosa di più. Gli chiedo. Con 16 io non lo so. Quindi cosa dovremmo farci con questo oggetto? Cioè, no, con 16 pensi che lui abbia fatto molte domande sulla vostra, diciamo, provenienza, e questo potrebbe essere un po' sospetto. Vabbè, quindi cosa è che dovremmo farci con questo che oggetto che dici essere vuoto? Provi la mia tesi. Cosa dovremmo farci con questo oggetto che dici essere vuoto? Il tizio deve morire. Beh, in realtà è un oggetto che comunque continua ad avere un suo valore. A dire il vero, beh, potrei anche acquistarvelo, se vi interessa. Potrei darvi... Beh sì, queste cose sul mercato, okay. Sul mercato nero hanno un certo valore. Potrei darvi 200 monete d'oro. Prendo un attimo lui da parte e gli dico che non sta dicendo tutta la verità, secondo me, sull'oggetto. Cosa bisognava fare in teoria per liberare? Questi sono incantesimi antichi, sono un po' persi nella nube dei tempi. So che era una cosa che andava molto, credo, nelle guerre anche dei Rakshasa, credo lo utilizzassero, ma con altri espedienti. Questo non sembra di fattura Rakshasa, ma chi può dirlo con esattezza? Vabbè, non sono le guerre. E diciamo che il fatto che non si apra, come sicuramente avete notato, sì. Non significa necessariamente che sia pieno o in funzione. Di solito queste cose si attivano o tramite un comando o tramite una situazione particolare che la scatena, oppure ci vuole una grossa magia che riesca a attivarle. Se fosse cercato di fare un rituale per liberare l'entità contenuta nell'oggetto, il rituale fosse andato male e l'entità avesse iniziato a possedere una persona, ti guarda con aria incuriosita e fa: io di questo onestamente non ho mai sentito. Tu che informazioni hai riguardo? Io so quello che ti ho detto. Ah, e sei sicuro di questa cosa? Sì. Molto interessante. Io penso che sia non è una cosa di cui ho mai sentito, onestamente. Penso però che sia una situazione, possa essere solo una situazione temporanea e molto pericolosa per l'ospite, penso. Perché, cioè, vedi, temporanea. Per liberare una possessione. Diciamo che dipende di cosa viene intrappolato all'interno. Io non te lo so dire con esattezza, ma da quello che so, una volta che viene intrappolata qualcosa lì, diciamo, è come se l'essenza, insomma, per essere liberata abbia bisogno di un qualcosa di fisico dove potersi potersi rientrare, che sia un oggetto o un altro corpo, c'è bisogno di qualcosa su cui possa appunto fare il ritorno. E ripeto, di solito per aprirli, che sia per attivarli che per aprirli, è necessario un catalizzatore di magia molto potente, cosa che ormai in questo mondo non trovi da nessuna parte. Ci sono molte leggende a riguardo, parlano di pietre magiche o oggetti magici molto potenti, fonti di magia, capisci? Cosa potrebbe qualche leggenda sul nord, sulle colonie? Sul dove adesso stanno le colonie? Ci sono molte leggende, ma sono molto antiche. Si dice che sì, lì ci sia la magia. Alcuni dicono che la magia sia ancora potente, ma chi può dirlo? Sono lande desolate, così a nord. Chi può dirlo? Io penso che comunque, se c'era qualcosa da trafugare nel corso degli anni, di raggiungibile sia stato trafugato. Poi ovviamente di leggende ne sentirete migliore. È rimasto lì anche l'altro che ci ha aperto nella stanza? Sta rassettando, diciamo, nella stanza di dietro. E noi, da quello che sappiamo, c'è questo qua che, da come ci hanno descritto, ha sta brutta fama e basta, però... Cioè, è uno che... No, specialmente il traffico di... Cioè, di oggetti... Fa delle cose un po'... Traffico di oggetti, diciamo... Non necessariamente magici, nel senso... Cioè, intuite anche magici, ma un po' come se fossero dei reperti, cioè tipo per collezionisti quasi. Tant'è che lui pare vi faccia un'offerta perché pensa... No, era per esatto, era per capire com'era, perché non so come metterla giù e pensavo di fare un'intimidation sul fatto, le tue parole che hai detto riguardo e relativa offerta mi fanno capire che ci sia qualcos'altro dietro e vuoi fregarci. Non so come altro metterla giù, quindi andrei così. No, la farei così, esatto. Mi è venuto in mente solo questo. Quindi cosa dici? Da quello che ci hai dato come informazioni, sembra ci sia qualcosa di che hai voluto tralasciare, e l'offerta sembra una truffa. Ho un intimidation? Sì. Cosa vuoi ottenere da lui? Che ti dica le informazioni? Vorrei suonare sotto di Laz. Sì, vedo il pedrino. Beh, intanto fa la sua prova. No! E ma tu come fai a sapere che fa la sua prova? Esattamente. Ah, faccio un'intuizione per vedere cosa sta per dire Laz. Cioè, se Laz non te lo dice, Laz dice la sua cosa. Non l'ho detto prima, quindi non lo dico adesso. Quindi l'avrei dovuto allora dire prima. Va bene. Fai intimidation. Poi dopo, se vuoi, poi... Bassissima. 7. Se tu hai muori torto. Piccoletto, io quello che che sapevo ve l'ho detto. Che... Il dado. perché pensi che vi stia mentendo? Che motivo avrei? Vi ho offerto 200 monete d'oro. Il guadagno. Quindi pensi che vi stia facendo, diciamo così? Beh... Come vuoi, io 200 sono le monete, è quello che vi posso offrire. Per questo mi avvicino, parlando anche un po' a bassa voce, dico: la questione non è il prezzo, la questione è che questo scrigno non è vuoto. Ah, scusa, non sto ridendo. Forse hai ragione tu, ma io penso che vedi queste non so come altro vedere il tuo scrigno, è proprio rovinato. Io non credo che possa essere in grado di contenere qualcosa e di essere in funzione. Forse la cosa è uscita. Vedi, il discorso è che può essere che sia se è uscita non è più in funzione. No, mi sembra esce a momenti. Di questo non l'ho mai sentito. Puoi fare un insight se vuoi. Daniel. 22. Sul fatto che dica che non ha mai sentito di questa cosa, ti sembra sincero? Cioè, effettivamente quando gli hai detto così era molto curioso. Però rimane il dubbio di tutte le domande che vi ha fatto. Ce l'andiamo? sul dove arrivate, dove andavate, eccetera. Comunque ti sei dimostrato molto interessato non solo all'oggetto, ma anche alla sua provenienza. Beh, e alla nostra. Non capita spesso di vedere questi oggetti. Sapere da dove provengono fa parte del mio mestiere. È stato fin troppo gentile, ce ne andiamo. Quindi non vi interessano i soldi, deduco. Io rimango dalla mia idea. No. Ripeto, è stato gentilissimo. Grazie. Possiamo andare. Informazioni. C'è un messaggio di Yak. Viva Lotaria Danzante. Esatto. Conosce il diritto di un buon esercista. Abbiamo informazioni e abbiamo ottenute. Sappiamo che non c'è niente in questa scatola. Sappiamo che potrebbe essere da qualche parte quello che è. Abbiamo tutto. Bene, andiamo. Beh, non posso che augurarvi una buona giornata. Se avete altri oggetti che vi interessa, che volete far esaminare, e ti fa uno sguardo ammiccante, sono qui disponibile. Posso provare comunque persuasione dell'anima, perché tutto questo interesse iniziale per da dove sono venuto. Che cosa vuoi ottenere da lui esattamente? Noi abbiamo. Ma io non vedo l'ora che ce ne andiamo e il tizio fa qualcosa di strano. Noi sappiamo. Cioè, tutte le cose che possono danneggiare Sceo o ciò che trasporta per me è oro. Mi ha detto che lui non. Quindi potremmo venderlo, perché anche quello è oro. Non ci ha detto esattamente tutta la verità. Perché soprattutto è sospetto a tutte le domande che ci ha fatto. E quindi vorrei cercare di persuaderlo ad aprirsi. Come gli dici? No, ovviamente puoi fare il tiro, però dimmi cosa Mosche. Dici. Ti prego di essere più sincero su voi. Con un servitore degli dei stiamo cercando di risolvere un mistero. La cena, la cigarro. Il tuo assello da qui. All'arrivo alle colonie, sempre che questo nostro amico, un compagno di viaggio, ci arrivi alle colonie, visto che qualcuno sta cercando di impedirlo, e liberarlo da... Intanto sto guardando roba in giro. Gli dici proprio tutte queste cose Ok, tirami un persuasion. Cazzo, che culo Giulio, però. Più 21, 23. No, faccio un ventello. 23. Ti fa, guarda, le informazioni che ti ho dato ci sono pochi porti in questa parte del mondo dove avresti potuto trovarle. Però diciamo che se ti interessa scoprire qualcosa di più, diciamo che non è detto che tu non scopra qualcosa nelle colonie, ecco, ma dovrai viaggiare molto a nord. Ma non ti posso assicurare nulla a riguardo. Detto questo, di semipossessioni ne ho sentite, ma non riguardo a questo tipo di oggetti. Penso che, se come dici tu, sia una situazione molto pericolosa probabilmente per entrambe, ma soprattutto per l'organismo che ospita. L'altra cosa che ti posso dire in tutta franchezza è che questo oggetto è molto potente e non viene utilizzato, veniva utilizzato per, diciamo, mettere, diciamo, fine alla presenza di persone comuni come ladruncoli, eccetera. No, ho capito. Grandi stregoni o divinità o qualsiasi cosa nel mezzo. Beh, non mi spingo fino alla divinità, ma sicuramente qualcosa di molto potente. Sì, per cui sai, come dici tu, io ti dico, tante volte, perché vedi, ti fa vedere che comunque è intarsiato e anche comunque delle cose metalliche. Anche dice, metalli utilizzati sono importanti, questi sembrano un po' deteriorati e non è un tipo di oggetto che si deteriora col tempo. Se cambierete idea, la mia offerta rimane valida. Gatta, abbiamo quante monete d'oro abbiamo? Abbiamo un cassa comune. Occhio, perché abbiamo vuol dire che dobbiamo decidere tutti insieme come spenderla. Sì, nel caso ti era fuori una ricetta. Quanto che ce ne sono? 66 sfuse liquidi. Due zirconi da 50 all'uno. Poi 1200 monete d'argento. Vabbè, 3500, quasi 3000. Il punto catta è che volendo questo mi sa che è uno degli ultimi posti in cui acquistare qualcosa. E se prendiamo degli anelli di platino, 50 monete d'oro mi pare, io casto un incantesimo, posso castare un incantesimo, tu indossi l'altro anello di protezione. In pratica tu hai di mezzi, hai riduzione del danno, che tutti i tipi di danno. Non so l'esa? Sì, c'è un no, danno, lui toglie 3, io di mezzo. Resistenza. Resistenza. Una riduzione. Perché li prendo io l'altra metà. E poi hai dei bonus alla un più uno alla C. Vabbè, ti dico che è una cosa di protezione. Sì, certo. Interessante, quindi vorresti dividere la spesa. Beh, sì, perché un anello avresti tu, un anello avrei per fare l'incantesimo. Spiderone. E non sono. Spero non vengano consumati dalla. No, no. Dall'ancia. Non vengano consumati. Però servono. Beh, dividi il bottino. Sì, a sto punto il bottino tra i presenti, quindi direi è inutile dare il bottino a qualcuno che rimarrà su quest'isola. Anche perché io l'ho trovato e gli ho rubato delle monete, quindi ce l'ho un cazzo, eh. Ce l'abbiamo ancora il teschio dorato di ce l'ho un cazzo. Niente. Il teschio dorato è stato distrutto con sì, sì perché umano. È rimasto, sì, è rimasto il tuo l'amuleto, quindi lo faccio vedere. Gli fa vedere. È rotto. Vabbè, non e vabbè, lo guarda. E gli racconto anche come l'ho ottenuto. Sì. Siete pieni di sorprese. Sì. Una vecchia leggenda dei mari. Non è magico, ma ha un valore. Te lo posso comprare per 100 monete d'oro, se vuoi. Che troie. Potremmo fare uno scambio. Che tipo di scambio? Descrivo gli anelli di platino che stiamo cercando per lanciare. Come si chiama l'incantesimo? Sono qua da qualche parte. Gli anelli non sono magici, sono gli anelli di platino nostri. Quanto costa? Dove si deve? Dove li hai visti? Sono gli incantesimi. Un componente materiale dell'incantesimo. Come si chiama il cantino? Beh, a questo punto, mentre loro pensano, 50. Lui ha qualcosa di interessante di questo genere di cose da vendere per avventurieri? Cioè, esattamente quanto. Allora, gli oggetti magici sono nel master. Sono nel master. Non penso di potermelo permettere, però intanto va a chiedere. Facciamo così, io vi do il master. Le cose più. Voi cercate l'oggetto che volete e vediamo se le cose comuni tipo le pergamene, le pozioni. Sì, ma prima. Prima pagina, sì, no? Ma prima scusa, facciamoci dire quanti soldi abbiamo. Sì, no, infatti non penso di avere soldi. Conteggio. Però. Tu se lo vai giù? Dov'è la pagina? Ricordate che avete anche. Abbiamo anche l'oggetto di Sceo da vendere. No. Non sto scherzando. Questo qua è Magic Item. Okay. 200. Possiamo anche dare quello per 200 metri d'oro. Comunque qualcosa ci facciamo. Questo scrigno. No, lo scrigno non ho. Perché no? Beh, dovrebbe posso rirubarlo. Quindi tanto vale lasciarlo a lui. No, ecco, vogliamo spezzare una lezione. Ma tanto rimane qua lui. Questi buonismi. Rimane qua, il capitano ha detto che rimane qua. Vabbè, vero? Tra prendere Wake. Ti pare. Non ha detto che rimarrà nel porto. Boh, Dio. Poi lui potrà fare quello. Potrà andare alle colonne. E perché? Allora gli vuoi ridare l'oggetto. Comuni e non comuni sotto le 500 monete sono, quindi qualcosa. Sì, comuni fino a 100. Può esserci qualcosa da comprare. Comunque io non sono molto d'accordo su sto fatto dello scrigno che comunque andrebbe distrutto e comunque a sto punto vendiamolo. Almeno ci facciamo dei soldi. No, è poi stato dato a me, non è nostro. Non è stato dato a te, tu l'hai rubato. Non l'ho rubato. È vero, sì, l'hai preso. Il capitano non era d'accordo sul prenderlo. Tu l'hai preso, io ho chiuso un occhio. Non è né del capitano né tuo. Nessuno di voi ha del diritto su. Allora, state discutendo davanti a me. Sì, ma a me non interessa. Tutto ciò che può danneggiare Sirron in ogni modo, quindi se il tizio poi va a cercarlo, va a ucciderci per lo scrigno, queste cose qua. Per per me è tutto oro che cola. No, sì, allora non mi interessa. Lo scrigno. Non mi interessa, non ti ascolto. Lo sto dicendo io, però. Ma quindi il tizio ascolta. Lo scrigno era del capitano. Il capitano, nel senso che il capitano, sì, il capitano voleva requisire, tu l'hai rubato. E io te l'ho lasciato rubare. Quindi tu l'hai nascosto per non farlo trovare al capitano, come era la sua decisione. E quindi la sua decisione e quindi andava buttato in mare. Mm-hmm. Detto questo, io me ne vado arrabbiato e vado verso la nave. La locanda. La nave. Ok. Sì, dimmi, Lazio, dimmi pure. Cosa sono questo? Ah. Cos'è? No, questo non è il tesoro, non ti devi preoccupare. Il tesoro, quello c'è. Io voglio il tesoro. Cos'è questo? Voglio questo. No, quello là, devi sconfiggere un mostro. No. Sto dicendo. Allora. Non è il tesoro. 135 era. Sono andato avanti. Gli anelli di platino quanto? 50 all'uno. Cioè, anelli di platino per 50 metri. Posso cambiare però il medaglione. I due anelli di platino. I due anelli di platino. Sì. Certo, perché no? Fatto, a fare fatto. Va bene. E poi dividiamo la cassa comune. Per le quattrici. Quindi fa 2750 di due porti. 700 tipo poco meno di 700. Viene. Già che siete qua, che state facendo un po' di spuccio. 687,5. Ma guarda anche il prezzo della pozione, ce l'ha, le compriamo. Quindi sono 68 monete lì. Infatti non è oro. Un sacco. Che si aggiungono, sono 108 monete d'oro a testa. Ah, fa Magic Item. Magic Item. Ok. Ecco degli oggetti magici. Che però non si scopre cosa fanno, quindi è interessante. Non sarà dopo un po'. Magic Item, questo qua. Lo vedremo. Prezzo. Lascio in cassa comune gli spiccioli di rame. Che sia, come decide il master, la seconda potenza. Il fatto che sia raro. Sì, no, dipende dalla rarità. Per 4. Questo per 4. Mi lascia qualcosa in cassa comune. Quello che non può essere spartito. Vabbè, ma gli oggetti che vendi dovresti chiedere a Vezzi se li vendi a valore pieno. Vabbè, abbiamo due zirconi, due pietre preziose, quelle sono considerabili come valuta. Non lascia i due zirconi lì. Dipende Vezzi come gestisce. Tanto alla fine se... Vabbè, mi interessa solo gli anelli, se tu scambi il coso con i due Vezzi, anelli... gli oggetti preziosi valgono il prezzo pieno. I due zirconi da 50 monete d'oro gliele posso cambiare? No, lui ti dice però che le pietre non le prende lui. Chi le prende? Conosci qualcuno? Cioè, puoi prendere, puoi usare, provarlo come pagamento. Ok. Però non ti dà soldi per le pietre. Va bene, allora ci possiamo comprare due pozioni di cuore. Sì, prendi la pozione. Cioè, te le accetta come pagamento, però... Ah, aspetta, si occupa di cose più esotiche. Però le monete ce le sono divisi. No, ancora, adesso le faccio. No, nel senso stai barattando le pozioni per le gemme, ok. Sì. Ok, allora aggiungo due pozioni. Per ci sta che lui non lo prende. Allora due pozioni di cura. Potete trovare un po' qualche posto no, dove sì, dove rivenderle. però erano usati per prendere una cosa del genere. Quindi tolte queste abbiamo 60 più sempre questi 68, quindi sono no, questi 68 monete d'oro, 275 più 60 fa 335, diviso 4. A testa, ok, e quindi ne avanzano in cassa comune. Intanto 3 monete d'oro a testa, 3 che vanno qua. Segnati anche la mia carta, che io non ci sono. Tu non ci sei dove? Dove stai dividendo? Dove sto dividendo? Nel momento in cui stai dividendo le monete, sono bellissime. Segnati la mia, che tu. Ti spiego dopo perché tu intanto segnati la mia. Ok. Mi sa che ci metto un po' a finire da leggere sto volume. Andate pure avanti, in caso passo domani. Vabbè, diciamo che nel caso può fare un acquisto. Potete tornare tu, su questo. Sì, sì. No, è il primo giorno questo. Magari, sì, ma se magari non lo facciamo oggi. Sì, sì, esatto. Sì, sì, beh, ok. No, perché ci sono delle cose carine che sono praticamente comuni e non comuni, quindi penso di poterle prendere con i soldi che ho, insomma. E allora, se una cosa non è comune, bisogna vedere se ce l'ha, però... Sì, sì, sì, sì. Non lo so, non ho mai letto Manual of Master. Master of the North! Mai letto quel manuale. Quindi, anello di plata. Sì. Una testa e poi avete preso due pozze, se non mi sbaglio. Le pozze non so di contenere. Le ho messo in cassa comune. Che costava 50 lume. Quindi, ah, aspetta, Cade, tu sei uscito. Sì. Vai verso la nave. La nave. Ok. Esci, giri un angolo e da un angolo della strada ti viene questa voce. Hai trovato quello che cercavi? Hai cercato gli ammutinati che cercavi? Hai trovato che cosa? Ti volti e su una cassa c'è un piccolo gattino dolce. L'ex personaggio di Arci. In questa sessione dispensa consigli. In questa sessione diventa un personaggio con un senso. A sorpresa. So, dimmelo tu se l'ho trovato. Hai trovato gli ammutinati che cercavi? Non ancora. Sto ancora cercando. Tu sai dove posso trovarli? Pare che tu abbia metà parte della nave dalla tua parte, ma forse starei un po' attento a non a sporcarmi le mani. Stai cercando un compenso? No, in realtà non mi interessa più. Forse se avrai pazienza avrai quello che vorrai, se riguarda il capitano. Ok, facciamo così. Vedo che penso che tu sia più esperto di me a gestire queste cose. Se vuoi un mio aiuto. Che tipo di cose? Esatto. Se vuoi un mio aiuto, chiedimelo subito. No. Non credo che potrò aiutarti una volta ripartiti. In realtà, il mio compito qua è già svolto. Ma vedo che il vostro amico ha seguito il mio consiglio. E questo mi fa piacere. Che amico? Uno dei tuoi. Quelli che chiami tirapiedi, ma a ben guardare buona parte del lavoro la svolgono loro, sembrerebbe. Cave Bregwell. Non so a cosa tu ti riferisca, ma nel caso ripeto, puoi chiedermi ora il mio aiuto se lo vuoi, oppure no, ma quando ripartiremo non potrò più parlare con te. Sì, questo è assolutamente vero. Bene, e me ne vado. Ti auguro una buona traversata, Kay Bregwine. Forse a nord cercherai quello... Che trovo. Troverai quello che cerchi. Vabbè, non ha capito quello che volevo dire, quindi me ne vado. Sì, no, tu volevi avere un video cosa. No, io volevo una cosa che adesso okay. succederà mentre io andrò alla nave. Va bene. Ah, vado io? Sì, il capitano è sulla nave. Vai dalla nave? Sì. E ti viene detto che non puoi salire sulla nave. Voglio parlare col capitano. Il capitano al momento non si trova qui. Dove lo posso trovare? Non lo so. È andato in paese. È a terra? È a terra, sì. Va bene, allora vado in paese a cercare il capitano. Lo trovi alla locanda del relitto. Capitano, come va? Andava meglio fino a che non sei arrivato tu. Cosa posso fare ancora per te? Ne devo porgere le mie scuse. Mi sono sbagliato. Falso. Amico. Prego. Sono stato egoista a dire o me o lui. Lui ha cercato di uccidermi per le motivazioni sbagliate o forse no. Comunque non mi ha voluto uccidere, si è trattenuto. E per questo voglio chiederle scusa per aver abusato della sua pazienza. Le prometto che non succederà più. Accetto le tue scuse, Ken Bregwan, ma con tua fortuna quanto mia, questo problema dovrebbe essere risolto, visto che il tuo amico rimarrà qua alla nostra partenza. Ecco, a tal proposito preferirei che lui venisse con noi. Ma perché voi continuate a crearmi problemi? Io non capisco, sembra che ve lo facciate apposta. Ascolta, la mia decisione è presa, ma per quello che mi riguarda, il tuo amico può anche... Io, come forse avrai capito, ormai lo lascerò qua. Ma nulla vieta a te di cercare per lui un passaggio per le colonie. C'è qualche nave ogni tanto che passa. Una prossima nave può portarlo. Posso dirti con chi parlare, se vuoi. E ci penso io, grazie capitano. Sali. Fuoco! Appena scende mette un passo a terra. Come vuoi, Cabe. Ti auguro una buona giornata. O quello che è. Arrivederci e grazie, capitano. Va bene. Basta. Voi? Quasi fatto le... Spese. Non so se loro hanno qualcosa da dirmi che dello per lo screen. Va fuori bene. Dal negozio. Se... è stato carino sapere una rotta più precisa rispetto a quello che c'è detto. C'è detto la mappa Garin. Immagino che una rotta più precisa una rotta, sì. Nel senso, scusa, Libeke ha uno stato a sé? Sì. E dove siete? Non hai ascoltato tutta la presentazione? No. Ok, grazie, che bello. No, del fatto che io avessi l'oggetto. Beh, sono sincero. Che bello parlare a voi. Puoi ascoltarti il podcast? Non riesco, sicuramente. Mi devo ricordare di dire qualcosa in proposito, poi mi sono scordato. Ok. Faccio un plot twist. Quindi non è stato distrutto l'oggetto magico di Sirron? No. Scusa, catta, si sveglia. No, ma gliel'ho ricordato. Ma che cos'è quel? Gliel'ho ricordato appena adesso io. Vorrei farlo notare. Come dai? Tipo, cioè, se state lì e avete fatto vedere questo oggetto, cosa pensavi? Cosa pensavi che parlassero? Sì, l'ho realizzato. Allora, fuori ci avevo pensato. Adesso il fatto che Giulio sia l'unico che sta giocando. No, io sto a sentire. Io ho detto, ho capito. Uscite allora in locanda. Non so, avete delle domande da farmi per il fatto che ho tirato fuori l'oggetto. E lui, perché? Giulio sta parlando, io... credo che lui abbia ragione. Che bello. Che gioia! Non dovevate distruggerlo, ho capito male. Cioè, in realtà tu non sai che è l'oggetto potenzialmente. Cioè, ora lo sai, ma... Cioè, lo sai, l'ho appena detto io prima di andare via. Sì, no, però prima tu potevi pensare che fosse la collana. Ce l'ho detto apposta. Gli ho detto apposta tutta la minata del capitano. Cioè, lui è arrivato lì con l'oggetto che pensava fosse il suo oggetto, così che gli andava a far vedere. E parla di questa maledizione, Sirro, no, ok, ci sta, andiamo. Non so, non è particolarmente arduo. Sta menata di due ore con il capitano, aveva ragione, no, bla bla bla. L'hai raggirato. Che ha detto, ne dobbiamo andare per parlare di Sirro, per vedere cosa fare. Okay. Per far luce sul mistero. Ho chiesto pure al tipo se conosceva qualche esorcista. Mi ha ignorato, sì, è vero, quello no, hai ragione tu. Sull'esorcista ti fa, ma... Quake, wow. Il delfino dei mari. Non saprei, puoi rivolgerti al tempio del mare. L'elefante del mare. Ok. Però non so bene. La moffetta di mare. La moffetta di mare. Va bene, lo ringrazio. E quindi che cosa vogliamo fare? Andiamo a cercare questa cata qualcosa. Che penso tu? Sì, quello che stavo dicendo. Ara, il vecchio. Per quanto il nostro compagno di viaggio, Cabe, non sembra essere molto dell'idea. Non è lì con voi questo momento? No, non so. Ok. Non sento quello che dici. Non lo sentirei comunque. Puoi dire qualsiasi cosa. Io penso che cercare di risolvere questo mistero e aiutare una persona potrebbe essere quantomeno una buona azione. E liberare gli oceani da questa aberrazione insensata, mi sembra un'idea. Esatto. Oh. Un po' chi lo sa. Ti chiede tra questi due se li ha. È arrivato allora, il fornitore. Se va male potremmo fare solo una buona azione, se va bene, ma dove questa cosa potremmo ottenere? Penso sia da fare. Io... questo lo penso, ma non lo dico. Io credo di aver sentito nei miei viaggi una storia che potrebbe ricordare quello che fa il caso nostro. Sei uno che suona il flauto, una capra. Si tratterebbe di addentrarci nell'entroterra di Sarvarn e andare verso nord. È un percorso periglioso e pieno di ostacoli, ma lui ha detto verso nord. Sì, non è chiaro, è stato molto chiaro. In realtà io una mezza idea ce l'avrei. Si tratterebbe di andare nelle zone perigliose che prendono il nome di Tana dell'Orso. Tana delle Tigri. Anche sulla costa. Tana dell'Orso. Dico, guardando una mappa. Allora, un altro è sempre di questa. Scusa, di questa. Scusami, tu... Certo, da... Dove sì, sai? Beh, dov'è il prezzo? No. Dov'è visto? Non, io non ho visto. Particolare non voglia di... Cioè... Una volta arrivati alle colonie, aspetta, non avete una meta particolare? Vabbè, vai. Non ho progetti particolari a riguardo. Qualcosa mi dice che là potremmo trovare degli indizi, però è una zona veramente pericolosa e è altamente sconsigliato andarci da soli. Quindi mi servirà la vostra, il vostro appoggio. Se siamo d'accordo. Andiamo un po' insieme. Comunque aspettiamo di andare all'incontro col mio amico di domani sera, magari ci illuminerà particolarmente su questa cosa. Vabbè, in generale vabbè. Sono abbastanza fiducioso nel buon vecchio Paxter. Una moffetta di mare. La mia moffetta di mare preferita. E Gary intanto, vabbè, compriamo cosa. Tu, Harry, cosa pensi? Penso di fare come ha detto lui in realtà. e aspettare domani sera e poi vedere e di dividere i soldi. Povero vecchio, che cambia la trama ogni volta. No, ma sulla storia ufficialmente quanto ho, quindi 83. Bene. Povero Vetsky, no, cambia la trama ogni volta. Non capisco come funziona. No, te l'ho detto prima, io parto degli oggetti. Il bar lo devi decidere. Lo devo cioè, come in sé, come esperienza che posso avere, quando tu sei in un momento in cui hai le spalle al muro, sì, non puoi non dire quanto sono rari. La verità per rimanere vivo. Io non l'ha detto, quindi vuol dire che ha qualcosa che lui sei idiota. Sì. Quindi tutto sto sbatto, te l'ho detto, ti seguo, ma non mi. Cioè, direi che poi ho 80 monete d'oro. Ne ho 116. Beh, gli uncommon ondeggiavano tra i 100 e i 500, quindi. Per quello. Sì, e i common sono meno di 100. Quello che stai guardando sono degli uncommon. Sì. E sono degli stivali che ti fanno volare. No, sono quelli solo per le prove stealth e movimento che non funzionano. Ah, gli elf, quando... gli elf sì. Qualcosa. Ce n'era un altro che non mi ricordo cos'è, che è quello per non farsi... per non subire i detect magic. Che cosa, cosa ti fa esattamente Tanti. L'elf qualcosa? L'ho già fatto tipo questo il primo qua, episodio e l'altro sono degli occhiali per Bond Rosetum Uncommon. In effetti anch'io so che non sei e l'altro sono tipo degli occhiali per vedere a scuro visione la prima cosa che ho quindi fatto. In realtà non è che sono cose sgrave o l'altro sono degli occhiali per vedere a scuro molto visione. Divertente la cosa a 60 di Sceo, 60 piedi. Che praticamente alla seconda sessione del personaggio tutta la sua storia. Ah beh, sì. Mi fanno un tiro e bisogna vedere intanto se li trova. Esatto. Non c'è si può chiedere. No, non credo. No, succedo io a casa. Non mi carica più la pagina. E per gli occhiali lui ti chiede 150 monete d'oro. Le cose non ce li ha. E gli stivali non li ha. Beh, prestito. Oppure si può provare a negoziare. Vediamo l'ultimo giorno cosa rimandiamo dall'avventura e poi ritornare. E tenga la parte. Prezzo e... Magari oggi sono i saldi. Io sì. Vi andrei, se non avete altro da fare, vi andrei alla sera prima di partire. Sì, esatto. Poi l'ultimo giorno, come la sera prima. Che è quella dove l'appuntamento sarebbe nella seconda notte. Che è la sera prima di partire. Terzo. Ok. Già tra due giorni. In caso ripasso la mattina. Vai. E sì, facciamo così. Vedi, però avrai poco tempo sicuramente. Presto. Sì, presto. Appena apre. Figlia i miei soldi. Se no puoi provare a chiedergli qualcos'altro. Se vuoi. Puoi provare a chiedere a Kat i miei soldi. No, vabbè, ho detto prima ascoltiamo sta cosa. Lui ti propone 150. Magari però riesci a ottenere qualcosa di diverso. Passo la mattina. Non è che non si può, che il tempo, cioè la mattina si partire presto, quindi Cioè, o gli dici stai aperto, devi convincere a stare aperto la mattina lì per dire vengo, vedo se c'è i soldi, capito? Cioè sì, dici... è che non so, aspetta, cosa posso inventarmi per abbassare il prezzo? No, non vorrei prestiti. Non vede che è inclinata. Quindi non è una fanata. Beh, tu in fondo vai alle colonie, no? Sì, giusto. Sì, quindi posso dargli tutti i soldi. Tanto è stato veramente bello. Io diciamo che. Non era una domanda del master, sta parlando lui. Esce comunque, hai visto? Sì. Te le posso dare io. Così faccio anche la banca del dio della tempesta. Mi farebbe comodo. Si chiama un servizio. Un corriere. Di cosa si tratta? Ti dovrei dovresti portare un certo qual pacco. a un certo Jeb a Kafkern. Okay. E Diciamo che potrei farti uno sconto di 30 monete d'oro. Non ho problema a portare pacchi senza sapere cosa contengono. Ma molto importante, gli fai l'occhio. Esatto, ma è qualcosa che non di magico che si può ritorcere contro di me o contro chi lo porta? No, non ti preoccupare, no. Se non curioserai, non avrai problemi. E beh, siccome sei ridotto a chiederlo a un viaggiatore, penso che uno sconto di 30 monete per una cosa così urgente sia un po' troppo poco. Se vuoi ti faccio un tiro. Sì, mi fai un tiro di persuasion. 15 più 3 di sotto. Va bene, facciamo che ti faccio 100 monete d'oro più questo servizio. Ok, va bene. Va bene. Ti dà una sorta di involucro con un sigillo sopra, con uno strano simbolo. Ok, e troverai. Non ho bisogno di informazione aggiuntiva. Meno sai, meglio è. Diciamo che ti chiederei di tenerlo nascosto a chi in particolare? Tutti. Ok, sì, ok. Ovviamente si possono avere problemi con le guardie, questo che intendi, o altro? Ma tu cosa fai? Ritorni lì dopo che noi siamo usciti? No, sono lì perché mi ha detto che domattina non avrei fatto in tempo. Ah, quindi noi siamo lì. Diciamo sì. Che non è un traffico proprio strettamente legale. Noi facciamo finta di niente. Quindi diciamo che è meglio. Cioè, no, io cesso di avere problemi nel momento in cui te lo do, fondamentalmente. Ma per te è meglio se non te lo fai trovare addosso. Ok. È un pacchetto così. Ah, è grande. Quindi da zaino, non da tasca. Da tasca. Un halfling, un pacco così. Ah, non è vero. Ma anche non nuovo. Allora facciamo che è una cosa così. È più una roba tipo un contenitore, come se contene, cioè, diciamo. Un pacco da tasca, insomma. No, è tipo un contenitore tipo. Cilindrico. Tipo sì. Esatto. Una pergamena. Tipo quello da pergamena. Esatto. Più piccolo. Sì, però piccolino così. Beh, potrebbe stare bene nella parete. Ci può stare all'interno del tuo coso. Ah, ok, puoi fare lo sistema lì. Puoi fare in modo di tenerci. È leggero comunque. Ok, va bene. Facciamo posto. Improvvisato. Mi ridai il libro che non mi ricordo come si chiamano le occhiali. Anche non ho visto indicato sulla. Ah, sei arrivato oro? È grande. Non ho visto indicato sulla mappa dov'è sto posto. È sulla costa o è un po' più dentro? Cioè, per capire quanto mi dovrò tenere sto pacco, più che altro. È qua. Ok. Voi arrivate qua e poi non saprete cosa succederà. Voi vorrei che tu arrivassi qua. Perfetto. Guarda, sì. No, a posto. E va bene. Se non avete altro da fare, andiamo direttamente alla sera. Sì, andiamo alla sera. Va bene. Siete lì a relitto. L'atmosfera è quella di festa, indubbiamente. E perché comunque si sta per ripartire, insomma, c'è gente che si diverte in tutti i modi. Poco prima del momento in cui voi dovete andare fuori per andare a questa bettola, notate che dal relitto esce anche il capitano con dei suoi uomini. Dalla costa ammogliata? No, dal relitto, dalla locanda del relitto. Okay. E poi dopo un po' è il vostro momento di andare. Allora, arrivate da questa bettola. È molto vicina in realtà. Abbastanza vicino, è più vicina alla nave rispetto al relitto. È in uno dei vicoletti o proprio vicino al porto. E però è tipo veramente una piccolissima porticella che va che tipo incassata in terra. Okay. Cioè sembra che vada proprio giù. E... ci sono finestre da cui si può guardare? No, c'è solo una porta e praticamente una, un'insegna rovinata di una donna particolarmente brutta. Mi piace questo con posto. Con delle cioè una donna, sì, sembra non bellissima, con delle delle vesti tipo stracciate, okay. Succinte, però al tempo stesso non... Bussate. C'è Ressa fuori? No, gente, c'è nessuno. Nessuno. Bussiamo. Si apre uno spioncino e fa... volete entrare, immagino? Possibilmente. Quanti siete? 1, 2, 3, 4. Sì, 4. Ok. Vi guardo un po'. Dal... cosa? Ok. Ah, vi apre e vi fa scendere giù. Praticamente è un locale molto molto abbastanza piccolo e luce bassissima. Sì, sì, no, però sono tutta notte, quindi è piena notte. E ci sono candele, ci sono alcuni tavoli dove ci sono degli uomini con delle donne che si stanno divertendo, eccetera. E poi ci sono vari separé, diciamo. Mentre siete lì, e da uno tipo vedi che appare pazzo e fa wake di qua. Lascia i tuoi amici di guardia. Ben arrivato, ragazzi, aspettatemi un attimo qua, arrivo subito. Sicuro che non possono venire. No, infatti è una cosa, cioè meglio se parliamo prima di te, poi. Va bene, Pax, dimmi tutto. Pax. Vai, voi intanto potete servirvi al bancone, eccetera, se volete. Ah, non ci sono neanche i camerieri? No, c'è qualcuno al bancone, però. Oppure delle donne che non bellissime, non di primissima età, che si avvicinano a voi e vi dicono... Un bel vecchio sono anch'io un vecchio, piccolino, tu sembri darci dentro, insomma. E anche tu piccolino. Facciamo così, faccio per voi due insieme, piccolini, o il prezzo per uno, che dite, ci state? No, grazie. Ah. Ma non dipende dalle dimensioni. Se venite alla cozza ammogliata, non dovete essere di così fine palato, penso. Quindi, vabbè, intanto mentre voi fate gli stizzosi, esatto, finite completamente. E Katta, il Paxter ti dice: Quake, volevo dirti che appunto qua non è sicurissimo, perché so che tu no, vabbè, alla fine della sessione poi vedete. Ok, e sì, Quake, a meno che tu stavi andando, stai andando a nord dalle colonie, come detto. Cosa? Niente, non ho capito. Ho detto a meno che Vez non ci faccia morire tutti ora. No. Hai qualche consiglio da darmi, vecchio amico? Di stare molto attento, sai, pare che ci sia una sorta di... Non sei mai attento. Vedi, questo scrigno è quello che lo tirano. No, mentre lo dici fa... Era quello di... E... Si sembra che ci sia una sorta di traffico... molto molto losco proveniente dalle colonie, soprattutto a noi. Che cosa fare? Pirati, cioè questa è l'isola delle queste. Pirati sono coinvolti. E tra questi pirati non me lo aspettavo, la questo anche... il tuo amico, il mio amico, non lo sai. Pieno di gente con col pallino sopra. Sì, anche secondo me. Sono quelli che quando ci vai sopra viene la manina invece che la fai sottile. Crack è una bestia. No, il parco che c'è parte Crane nel pirata che avevo creato io. Che Crane. Però scritto, ragazzi, perché non ti ricordi le cose? Sei il tuo personaggio, cazzo. Ti tolgo l'ispirazione. Sai che me l'avevo già giocato. No, non ce l'hai, ma c'hai una seconda, dai, vedo. Io userò per ricordare il suo nome. Sì, però non so neanche io. Era Kendoff qualcosa del genere. Beh, il tuo caro amico traditore. Krakendoff. Krakendoff? Cosa del genere, sì. Kraken qualcosa. Pare che lui sia in quei traffici, quindi ti ho voluto portare qui. Se no fai un diciamo, beep, mettermi al sicuro perché ha molti amici, sì, ha molti amici da queste parti. In post-produzione. E se sa che vai di là, insomma, pure cerca di voce, magari la privacy è stato dovuto di stare sì, lontano dal nord. Pensavo che quel codardo avesse i suoi luri di tentacoli. Sì, loro si sai, dalla parte della lama gelata, che è questa qua. Che è la... Ci sono molti covid pirati, sembra che ci sia un traffico molto redditizio per tutti loro. Adesso il tuo caro amico si fa chiamare il corsaro di ghiaccio. Oh. Sta diventando molto ricco. Sta trafficando qualcosa in particolare o sono in ferro? Ma diciamo che da quello che so io... Krakenberg. Ci sono varie cose, ma... Anche proprio oro e pietre preziose, da quello che ho sentito dire. Grezze? Sì, pare che comunque sia lì. Penso che diciamo che sia un qualcosa che va al di là della conoscenza delle autorità della Saradovia. Ecco. Molti pirati sono coinvolti in questi traffici perché pochi si vogliono avventurare da quelle parti. Non so quanto sia esteso questo sistema e chi ci sia dietro esattamente, ma volevo appunto metterti in guardia perché lui ha molti amici qua e se ha saputo che tu sei qua sicuramente avrà piacere nel farti visita se potrà, per cui magari cerca un posto dove non ti venga a trovare, ecco. Domani mattina noi partiremo, quindi perlomeno nella nostra nave dovremmo essere al sicuro, o almeno prendo. Non ci sono? Sì, beh... Tu sei sulla nave, no? Cerca di stare attento. Io sono lì che ti aspetti. Ah, ok. Grazie Pax, il tuo aiuto è sempre stato... Siamo tutti. Ah, sì, sì. È sempre benvenuto. L'Arantia che sta provando a farmi, sì. Esatto. Dimmi. Ho capito che torna corsaro di ghiaccio. Che cosa? Niente. Questo corsaro di ghiaccio adesso con questo traffico, quanti scagnozzi sei riuscito a procurare al suo soldo? Quello che ho saputo, oltre diciamo che sono vari pirati e le navi coinvolte, ma credo che abbia più di 3-4 navi. Sai che devi muovere. Cazzo. Perché? Il PG sta per morire. Il tuo? Eh sì, sta facendo, se è possibile, carriera. Ah, perché? Maledetto bastardo. Ovviamente lontano dalla nostra parte, visto quello che ha fatto. Cosa vuoi fare? Ma non ha dimenticato il tuo nome qui, che te la posso assicurare. Ma neanche io ho dimenticato il suo. Allora me lo fai un favore. A meno che tu non abbia una flotta di... A meno che tu non abbia un'applicazione sul cellulare che ha scritto il nome da qualche parte. Ah no, scusa, cosa? Non ho capito. Anch'io ho dimenticato quello. A meno che tu non abbia un'applicazione nel cellulare con scritto il suo nome da qualche parte, mi sa che te lo sei scordato. Dai, ma anch'io. Oh. No, c'è qualcosa a Salla, scusa, il capitano. Sì, no, parlava con me che... No, dicevo... Ma che cosa... Che lui mi deve chiedere un favore in gioco. No, lo chiedo io. Okay. Va bene, aspetta. Stop, vai. No, ma non adesso. Cioè, dopo ti dico quello che devo fare, devo chiedere un favore o a lui o a lui, insomma. A te no, perché no. Ok, beh, grazie. Beh, tanto mentre lui sta parlando avete tempo di... No, in pratica vorrei trascrivere... il simbolo che ho sul pacco, su un foglio, e chiedere a uno di loro due di farlo vedere al capitano per chiedere se conosce di dire tipo, potremmo, su delle merci, ma intanto potremmo guardare, intanto potremmo guardare se noi lo conosciamo. L'ho visto su delle merci, che roba così, volevo fare sapienza magica. Non è magico, ho detto. No, fermo. Storia? No, il ti metto che non è magico. Sì, ho tutte le abilità. E è un simbolo. Sì, ah, ok, ce l'avevi già per fare. Allora, questa il simbolo, cosa. Sì, no, okay. Non l'avete mai visto. La prossima volta vi dirò esattamente che simbolo è. Ah, non era pronto il master. No, perché è una cosa improvvisata. E però non l'avete mai visto. Puoi fare come Ema, disegnare un pene. No, prossimo, ci penso. E sì, sì. La prossima volta vi dico. Però sì, non l'avete mai visto. Cioè, intanto io faccio un disegno. Sì, sì, però potete fare. Ma è una literale per fare un disegno. Anche perché è venuto in mezzo. L'unica cosa, ti viene ogni tanto disturbato dalle donnine che dicono: ma dai, tu sembri così, no, ecco, carino. È questo che volevo evitare. Non vorrei disegnarlo lì che lo vedono gli altri. Ah, non so. No, allora non lo allora faccio. È per questo. Sì, ha senso. Va bene, dopo un po' Katta riemerge. Dove vuole? No, splendide notizie, si va verso. Vabbè, ma stiamo già andando. Vabbè, stiamo già andando. Ah, è vero, cazzo, potevo dirglielo. Oddio, stavamo già comunque andando verso. Vabbè, molto e nord. Detto questo, possiamo tornare alla locanda. Quindi, io non ho più niente da fare. È una notte nebbiosa. Riuscite in strada, quindi. Vi andate verso la locanda. Immagino. Certo. Non arrivate sul mollo, però sentite come dei lamenti. Tipo, infatti mancava il combattimento. Ma ormai. Siete... Natura. Fammi un tiro. 18. Sembra, diresti che è un animale, probabilmente una foca o qualcosa di simile. È Lotaria! Via dalla nave! E siete praticamente dal molo, vedete arrivarvi una figura tipo balonzolante, ondeggiante, che va sopra. Inquietante. E dopo poco riconoscete, è chiaramente una foca, direste Lotaria, quella della nave, ma invece che di fatto arriva da voi, sembra che stia danzando quasi la sua danza. Ma muore. E arriva praticamente da voi e stramazza. Cura ferite! Stramazza a terra. Non te aspettavi, eh? Stramazza a terra davanti a voi, coperta di ferite e sangue, è morta. Ma è notare che era sulla barca? Sulla nave? È sicuramente quella. Cura ferite! Cura ferite! Ma no, una volta che siete lì. Invisibilità! Fai invisibilità, sì. Vuoi fare invisibilità? Sì. No, no. Vabbè, anche il cave è sparito. Okay. Faccio un passo indietro, invisibilità. Non vorrei che arrivasse il capitano. Voi avete ucciso Lotaria, ciao. Vai, per questo invisibilità. Non devo tirare. Va bene. Avete detto cave che scompare. Sì. E... tanto lo so che sta usando magia. Vedete poco più in là dell'Otaria, sempre su un altro modo. Che del cazzo che ho. Vedete dei corpi a terra. Di chi? Marinai? Se vi avvicinate un attimo lo scoprite. L'amministrazione, andiamo. Avete visto qualcosa? Non volete vedere neanche chi sono? No, immagino che non voglio fare. Regà, mi avvicino anch'io invisibile, ve lo dico. Ma non li vediamo perché è buio o perché? Sì, cioè ci sono un po' di luci. Vedete chiari. Che ci sono dei corpi, però se non andate un attimo vicino. Va bene, ci avviciniamo. Cioè io mi avvicino. Io aspetta. Okay. Non vi sembra che ci sia nessuno per il momento, a parte voi e questi corpi. Io mi avvicino. Prima lancio incantesimo warding. Dissolvi magie su Sala. Boom! visto che l'ho preso. Cos'è? Cosa mi dico? Quello per cui abbiamo preso gli anelli. Hai resistenza a tutti i tipi di danno. BFF io ma lo puoi castare su diaframma di platino automatico, non devi fare oltretutto proprio gli anelli si sono scambiati le peli. Sì, è imbarazzante. Oh, è così l'incantesimo. Ragazzi, non c'era la versione eterosessuale con le collanine. Bisogna avere due anelli di platino del valore 50 monete d'oro l'uno, e bisogna che ognuno ne abbia uno. Sì, sì. Stiamo a matrimonio. È un card questo, gliela devi dare. Italia Unione Civile. Wording Bond. Qua. Nazione. Dura un'ora. In onore che anche concentrazione. Va bene, andate a vedersi i corpi o... Sì, vado a vedersi i corpi. Ti dico cosa fa l'incantesimo, dà resistenza a tutti i tipi di danno, più uno a C e più uno ai tiri. Quindi se muoiono, muoiono in due direttamente. E io prendo metà dei suoi danni. Muore prima Giulio e poi muore anche. Vabbè, così è più facile, perché così tutte le cure le castiamo su Giulio. Tu hai i tuoi occhiali, giusto? Di cioè, alla fine Katta prende la metà dei danni, poi riduce di tre. Sì, esatto, sì, scuro, vision, metti, dark vision. No, metti, sì. Beh, di notte sì, direi. Cioè, visto che li ho. Cioè, adesso te li metti. Sì, sì. Che ne hai bisogno. Dici che riduci di tre e poi di mezzo. Dopo, so. Dopo esservi equipaggiati come se dovesse affrontare il Terrasque, e... Vabbè, adesso non è che ci devi... È perché io volevo provarlo, sei incantesimo, quindi... Vabbè, lo sai che... Situazione di possibile pericolo, io lo casto. Vi avvicinate o scappate via a gambe levate? No, non mi avvicino, sono invisibile. Prima... E... Vabbè, l'invisibile non so dov'è, mentre Kata... A difetti c'è scritto, io scappo e cerco di salvarmi la vita nascondendomi se le cose si quindi fanno pericolose. No, sto lì per... No, devo stare entro 60 piedi a Kata per un incantesimo. Sì. Abbracciati, mi basta poco magari per avvicinarvi. 60 piedi sono 18 metri. Ma non la vale. Avete visto un paio di corpi. 18 metri, cazzo. Avvicinandovi, poi tra le nebbie, vi rendete conto che sono ben di più. Ci saranno. Tipo 7-8 cadaveri. Uno di questi cadaveri è sicuramente il capitano Tarren. Vabbè, raga. E. Riconoscete anche un paio dei suoi uomini che avete visto andare via con lui. Posso perquisire? Provaci. Se vuoi puoi farlo. E... Io chiudo gli occhi se ce li hanno aperti e faccio traccio col sangue che immagino ci sia. C'è il sangue. Sì. Il simbolo, il simbolo della mia divinità. Diventano miei. Tutti miei. Ma no, aspetta, potrebbe essere mal visto questo gesto. Tu. Lo sto per fare e poi dico più tardi. Quanto sono mia l'uccisione. Quanto sono, quanto è vicino alla nave? È ora, abbastanza vicino. E chiudo solo gli occhi per rispetto e dei morti. C'è un altro corpo che riconoscete. È quello di Voln. Che Voln è stato scelto. No, Voln era il barbone che aveva trovato nella cassa. Ah, e okay. Mi fate un perception. La sua vita, a quanto pare, non ha trovato tutto. 20. 20. 10, come hai detto. Oh, sì. Ma spettacolare. Sempre 10. Per fortuna che c'è l'altro. 12. Las, sei. Sei, diciamo, vedi non lontano da Voln qualcosa che luccica. Ti rendi conto che è un dente, cioè, o meglio, è una sorta di, è come se tipo fosse qualcosa che è sopra un dente. La capsula, tipo? No, cioè, è, o meglio, sì. Cioè, di fatto fa che sia un dente d'oro. In realtà il dente sotto c'è, però è come se tipo fosse infilato nel dente. Ok. E nella parte interna del dente c'è un simbolo. Ed è un simbolo di una fenice. La okay. Fenice è il simbolo della casata reale della Saradovia. A chi manca il dente? È vicino a Voln. Che ferite quindi... hanno? Mm? Che ferite hanno? Sono chiaramente stati accoltellati più e più volte. Hanno chiaramente combattuto. Okay. C'è sangue da tutte le parti. Devo tirare medicina. Domanda. E non c'è nessun corpo che non sia dei loro? Cioè, il capitano... No, alcuni è membri... tutta sua, ma non c'è nessun nemico riconoscibile. Sono tutti membri dell'equipaggio. Davanti alla nave non c'è più nessuno. E la nave lo prendo studente, insomma. Vuoi andare a vedere se c'è qualcuno? In questo, da dove siete, però c'è un po' di nebbia, non sembrerebbe però... Non ma quindi la nave non è attraccata. La nave è attraccata. Salvo io, sulla nave. Aspetta, io aspetta però. Studente lo prima, raccolgo, insomma, prima che tu vada, via. Prima che tu vada... ok. Cosa, scusa? Il dente lo prendo. Niente, lo puoi prendere. Sentite una voce da dietro di voi. che vi dice: beh, forse fareste meglio a non rimanere qua, potrebbe mettervi nei guai. Una voce magari in gatto. No, è la voce di Boldrek. Chi è Boldrek? È un ricordatore. Bravo. Grande. È tutto, è merito. Cosa è successo qua? Beh, evidentemente qualcuno ha fatto fare una brutta fine al capitano e agli altri. Solo che vi conviene seguirmi, perché, come dire, uno che passa adesso potrebbe pensare... C'è necessità di fargli un insight o ci fidiamo? Tanto ti dico cosa dice e poi fai quello che vuoi. Diciamo che una persona potrebbe avere dei dubbi nel vedervi vicino ai corpi del capitano con il quale avete avuto dispute dall'inizio del viaggio. E tu non ne hai perché sai che non siamo stati noi essendo stato tu? Diciamo che il capitano ormai è morto, ma forse non è il caso di parlare qua. Seguitemi. Chi è questo? Okay, non so dove sia il vostro Stealth. Amico. Lo so per chiedere. Vai. Stealth, vantaggio. 10. 12. Dove cazzo stai? Furtività 12. 17. Salgo sulla nave. Sì, vai verso la nave. E era per non farmi sentire, vabbè, da loro, ma sì, sì, dal tizio. Sì, sì. E quindi voi invece andate con Boldrek. Che dite? Cioè, dalla risposta, probabilmente è stato lui. Ci fidiamo, sì. Andiamo. Cabe. Non c'è. Voglio andare a uccidere Shiro. Diciamo che lì sono meno. Ha detto che non sa dov'è. Non c'è. Lo so. Diciamo che lì ci sono membri dell'equipaggio. Beh, sapete però anche che l'equipaggio. Lui ha detto sì, che c'erano non sa delle dove, dispute. Che non sa dove. No, lui vi dice di seguirlo. No, ma poi che non sa dove sia. Chi? Nessuno gli ha chiesto. Nessuno ha detto niente. Non ha detto che non so dove è il vostro amico. No, è inteso lui perché era invisibile. Lui. Scusate, non mi sono perso. Seguitemi, parleremo nel caso. No, bisogna quando... saperlo subito. Potete rimanere qua e farvi incolpare oppure seguirmi. Lui va. Andiamo, dai, andiamo. Seguite il nuovo vicolo, fa 2-3 giri e poi dice, vi dice... Ok. E dice beh, non so se siete stati voi o meno, ma credo che si possano trovare tranquillamente altri colpevoli, insomma. Non avevo particolare simpatia per il capitano. L'importante è arrivare alle colonie e ci sono altri modi per arrivare. No, sempre via mare. Sempre con Lotario. Sì. Con Lotario la vedo dura. Sirron è il tuo amico imprigionato. Beh, magari potrebbe essere coinvolto in tutto questo. No, ma sai che non è sulla nave o non sai? Non lo sai. Potrebbe essere coinvolto in questo. Beh, non credo che sia questo il momento di andare a scoprire se sulla nave, giusto? Vero? Però sono un po' indeciso se c'è. Tu vai sulla nave. Vado verso le celle. Ok, va bene. Non c'è nessuno sulla nave. Alle celle non c'è nessuno. Allora, sulla nave non c'è, cioè alla guardia non c'è nessuno. Anzi, quando arrivi lì dalla cosa, ci sono i cadaveri di due guardie. Bene. E sali su, quindi immagino. Sì. Tutti stealth. Noi dove siamo? Sono sempre invisibili in stealth. Voi siete in un vicolo dietro. Molto lontano. Non troppo, però abbastanza. Sto lì. Sto lì. E vi dice: sono un po' indeciso. Per me siete più utili se arrivate sulle colonie che se vi fate imprigionare. Il tuo discorso ci può stare, però dovresti dirci qualcosa di più, se sospetti di qualcuno o sai altro. Diciamo che vi sto salvando il culo. Oppure... No, non possiamo saperlo. Beh, direi di sì. Perché adesso... Sentite? È questo. No, sentite tipo delle... Comincia a sentire del brusio, tipo delle urla, tipo... degli schiamazzi. Sconto. Probabilmente adesso la cosa diventerà di dominio pubblico. Io faccio, cerco di fare tutto entro un'ora. Comunque. E diciamo che qualcuno potrebbe aver notato il fatto che abbiate abbandonato la locanda poco dopo il capitano. Ma siamo andati in un'altra locanda nella settimana. Ne sono convinto. La cosa non mi interessa, ma sicuramente. Quanto è figo che io abbia chiesto scusa al capitano prima di. In una locanda in pubblico prima che succedesse tutto questo, eh? Quanto sono figo! Dice, io non ho motivo di indagare su di voi perché non mi interessa. Diciamo solo che ho maggiore interesse che voi arriviate alle colonie perché, come ho detto più volte, mi sembrate uomini di valore. Seguitemi, meglio mettersi al riparo da queste parti. Dove ci porto? E diciamo che vi ridirigete da altre strade verso la locanda, fondamentalmente. Ok, vabbè, ci fideremo. E intanto Cabe. Sembra molto obbligata. Tu arrivi dalle prigioni, non c'è nessuno. La prigione è vuota? Entri dalle prigioni, la prigione di Sirron è aperta e non c'è Sirron all'interno. Era quello che volevo fare io. Vabbè, torniamo indietro. Sì, la mia idea è aprire la prigione, tipo tramortirla, aprire la prigione e far sì che venisse data la sì. E va bene, scendi dalla nave. Sì. Sei ancora invisibile. Quanto è durato il film? Un'ora. Un'ora. E ripassando dal punto del. Vedi che comunque comincia ad esserci già gente che ha visto queste cose, sta cercando quei cadaveri, sta parlando, dice, ma chi è che può essere stato? Chi può essere aver ucciso il capitano? Me e adesso come succederà? Partiremo? Partiremo lo stesso? No. Cosa ne sarà? Chi può essere potrebbe stato? Essere travisato. C'erano vari all'interno. Mentre sento parlare, vado un po' in un vicolo vicino, sì? Torno visibile e poi arrivo correndo. Ok. Che cosa è successo? Che raggirare? Eh? Raggirare? Oh sì, dai. Cosa è successo? 17 più 8. Sì, sì. Che cosa è successo? No! Che pare che qualcuno abbia ucciso il capitano. Ah, vabbè. Oddio. Ah, oddio, volevo dire. Proprio ora che gli avevo chiesto perdono. Anche per Sirron. Ma Sirron è ancora sulla nave. Forse può essere fuggito e essere stato lui. Potrebbe essere. Andiamo a controllare che sia sulla nave. No, aspetta, prima chiamiamo le guardie e accertiamoci che tutto sia. Che guardie? Le guardie di sto posto. Città. Ah, sì. Ha senso. Tutto sia regolamentato, diciamo. E non facciamo le cose a cazzo, lasciamo che la giustizia faccia il suo corso. Com'è che. In coso, in Invictus? Forse sì, ma che c'è? Forse ha ragione. Va bene. Tu avresti dovuto fare un ciarlatano proprio. Intanto guardate se. Cos'è? Spettati da Fumble. Che cosa? Cosa grande. Dov'è? Fa vedere anche la telecamera e anche a me. Non lo vedo. Ah, la scheda. Cosa vuol dire? Background. Charlatan. Ah. Così. Vabbè. E sì, beh, più charlatan di te. E sì. Vabbè, la cosa viene. Vabbè, la morale è che io voglio che stiano lì, nessuno salga sulla nave, nessuno scenda finché non arrivano le guardie. Ok, sì. E arrivano un po' di guardie scazzate e dicono, beh, la solita rissa, fa no, questo è il capitano Tarico, cazzo me ne frega il capitano Tarre, voi sarà da viensi di merda, fate solo dei casini, siete della feccia, la feccia della feccia! E vabbè, le guardie non sembrano troppo interessate, però ovviamente se devono comunque occupare linea di massa. E intanto è intanto in un po' la folla. Se Sarre non, non si vede, forse è colpa sua. Se Sir, se Sir non si vede, forse è colpa sua, le solite menate. Andiamo alla nave a controllare. Controlliamo. Controlliamo. Mi hai detto che nessuno doveva stare. No, beh, sono arrivate le guardie, hanno visto che cosa è successo. Controlliamo. Le guardie dicono: beh, noi non vogliamo casini. Non saliremo sulla nave, ma potete salire sulla nave se è la vostra. Grande. Allora io con tutta la folla che riesco ad adunare entriamo. Infatti magari arrivate, però trovate le guardie. Non hanno giurisdizione sulla nave, forse. Sì, loro vogliono non avere troppi problemi. Cioè, gli frega il giusto, evidentemente. Però, ovviamente, un po'. Chi è il secondo in comando? Ma è morto, anche lui. Non è lì. Ah, ok, vabbè, allora sono io. C'è uno degli, c'è uno degli ufficiali tra i morti, ma non Albrecht. Sono io. L'avete conosciuto l'ufficiale? Non c'è Albrecht. Io non c'è problema. Sulla nave, cioè, vedete le guardie, arriva sulle guardie e è aperto sopra dalle prigioni. È scappato! È stato lui! È stato lui! È stato lui! Troviamolo! Troviamolo! E uccidiamolo! No, è vero, uccidiamolo. Ci sono molti che dicono, beh, forse il capitano ha avuto anche quello che si meritava, però. Appunto, però ce l'hai detto tu. No, non ho mai detto che il capitano dovesse che morire. Non hai detto che era giusto uccidere. Non ho mai detto così, con i pugnali sanguinati. Hai detto che era giusto. No, se trovo uno così, una giusta causa. Se vedo uno così, dica una giusta causa. No, dividere, no. Se uno è davvero che pugnali sanguinati, mi nascondo. Tipo, no, è stato Sirro. Sì, invisibilità su di voi. Esatto, invisibilità su di voi. Sì, ucciso sui cadaveri. Questo è per Cave. Perché c'è scritto Cave? Guarda quei corpi. Dove c'è scritto Cave? Come sono disposti? Regua. Immagine. Vabbè. Forse è stato quel vecchio della magia. Può essere, però secondo me è stato Sirro. I tuoi amici sembravano molto incazzerecci col capitano, magari anche loro. Li hai visti? Erano con me, non sono stati loro. Ma non sono con te adesso? No, sono andati verso la locanda. Io li ho persi di vista, non so dove. Ecco, non è una buona scusa. Ah, è vero, li ho persi di vista. Sì, è vero. 2 più? Oh, 10. Vabbè, comunque però è verosimile. È un più 8, cattacce. Beh, un po' di dubbio. Beh, il doppio della professione. In effetti non è un raggirare, è un persuasion. Ecco, preferiamo un raggirare. È un persuasion, perché non è un raggirare. È vero che tu sei stato con loro. No, beh, allora è la verità. Persuasion. Persuasion. Bisogna dire che non sono stati i tuoi amici. Preferimo raggirare. Che è un? 8. Allora tagli la stronzata. Tu, Cave, di te possiamo fidarci, ma dei tuoi amici non so. Vabbè, tanto abbiamo la protezione. Vabbè, intanto troviamoli tutti e chiediamogli. Andiamo alla locanda, ci sarà qualche ufficiale. Giusto. Alla locanda vi ritrovate tutti, di fatto. E cazzo siete voi? Alla locanda. Ah, ok. Eccoli, uccideteli! Sono loro! Vabbè, raga, posso finalmente usare tanto quello. Sì, vabbè. Alla locanda, sì, fa, cioè c'è chi dice, loro potrebbero essere stati, loro hanno fatto fuggire il loro amico, ma no, non ti ricordi, quello l'aveva voluto anche frustare, sì, ma l'ha frustato piano, apposta. Giusto, giusto. Sì, sono stati loro, e quel vecchio è pieno di magia, è malvagio. Fa, beh, no, ma in realtà ci hanno anche salvato dagli spiriti, ma non hanno portato su di noi la rovina. Silenzio! Il nostro capitano è appena morto e siete qua tutti a fare del casino così. Vergognatevi! Come fai a sapere il capitano è morto? La voce è arrivata qua ben prima che arrivasse. Scusate, siamo tutti d'accordo su una cosa. Sirron, che non è qua, è il maggiore indiziato. Troviamolo. Il vostro amico non si è fatto. Non è sulla nave, forse? Sì, amico? Cosa? Sì. Parlavo di Sirron io. Sì. E non ho capito perché amico. È quello che è finito in gattabuio. Sì, perché ha cercato di uccidermi. Ad ogni modo, questi soggetti erano con me, quindi non sono da temere. Appunto. E Sirron dov'è? E Sirron dov'è? Andiamo a cercarlo! Sarà sulla nave. Non è sulla nave? No, siamo andati a controllare. Non è sulla nave? Non è sulla nave. Potrebbe essere stato lui, però da quello che si dice sono più di un corpo. può averli uccisi tutti da solo? Io non credo. È un demone. Aveva dei complici! Eccoli! No, vi ho detto che sono con me. Che ferita aveva ricordo. È un demone. Che ferita è maledetto, è posseduto. Però noi non possiamo dirlo, perché sennò... infatti io sto chiedendo. Dobbiamo partire subito, adesso! Ragioniamo. Ma che cazzo vi pare? E il fatto quello di prima. Ma se non ce lo portiamo dietro. Partiremo comunque domani, anche senza il capitano. Prenderà il comando della nave il primo ufficiale Albrich. Ora sarà il capitano. Io dico piano, dov'è il primo ufficiale Albrich? Sono qui. Ah. Era nella folla. Ah, sono qui, distaccate. Sì, prenderà lui, sarà lui il capitano dell'Italia. Ora tranquillizzatevi tutti, andate a letto e domani ripartiamo. Come facciamo a essere tranquilli con un assassino a piede libero? Non possiamo. Forse Cabe vuoi guidare una spedizione per cercare il tuo amico? Cercare amico? Trucidare l'essere? Beh, adesso è comunque l'ora tarda. Propongo a tutti di rimanere in locanda e non fare strane cose e aspettare domattina. Ma tenete gli occhi aperti. Fammi un persuasio. Allora, scusa, dobbiamo dormire con gli occhi aperti. 16 più 6. Se lo dice Cabe, è quello che dobbiamo fare. Lui è forte, ha grande esperienza in tutto questo. Fidiamoci alle guardie. Questo è la giornata. Sì, ma che c'è? Va bene. Ti piace la mia abilità? Intanto vedete che i reclutatori con altri si mobilitano per andare a cercare in giro. Cercheremo questo Sirron e altri che possono essere responsabili. Se qualcuno di voi ha delle informazioni, è il momento di darle. No, no, non penso. Ho il 1 da voi. Voi no. E va bene. Il giorno dopo niente, vado io. Direi. Ah, no. Se volete possiamo concludere qua l'episodio e di fatto ripartite con Lotaria, il cui capitano non è più il capitano Tarren. Ma è capitano. Albrich. Sì. Tu non ti sei disperato come pirata che il capitano è morto? Sirron non c'è, i corpi avevano ferite da taglio, non, e Sirron è uno che mena e basta. Sì, sarà nascosto sulla nave, però... Beh, è improbabile che si sia liberato da solo dalla cella e abbia ucciso tutti quegli uomini accoltellati. Da quello cosa che... pensa la gente? Nel suo racconto non sarà così. Basta. Scie chimiche! Sì, più o meno sì. La gente è stupida. Fabbricatore di fake news. Secondo alcuni, da quello che è riuscito a intuire, alcuni dei corpi lì della ciurma potevano essere alcuni che si volevano mutilare. Però... l'idea è che, siccome comunque il capitano era esperto e anche quelli che sono morti erano degli esperti, a parte il barbone, che non ci sapeva che ci entrasse. E... ah, noi non sappiamo che tu però... Sì, avete visto, avete visto lui che prendeva qualcosa per terra, lo esaminava, però poi non c'è stato il tempo di parlare. Quindi questo, se volete, lo puoi dire adesso. Beh, facciamo un prossimo. Che cos'è, un molare, un canino, un incisivo? È un molare. Quindi è un dente. Allora, il dente c'è dentro. È una cosa sopra, che una copre il dente. Per cui da fuori sembra che il dente sia dorato. In realtà non lo è, è una roba che si sfila. È sotto la stemma. È una cosa che si sfila. E nell'interno c'è questo simbolo. Nell'interno dorato? Sì. Cioè nell'interno del dente. C'è anche una cosa come... Da fuori sembra un dente d'oro. Il simbolo di una cosa. Però volendo, se... la cosa si in realtà sfila, volendo si sfila. C'è, sì, sì, esatto. In realtà si sfila esatto, c'è il simbolo della... Non era mai riusciti a vedere se mancava qualcuno in dente. Era di fianco a lui che aveva la bocca insanguinata e c'erano altri denti anche nella sua bocca. Che simbolo era? La Fenice. Che è una casata. La casata Barrakhan, che è la... Barrakhan. Vabbè, che è la casata reale da Saradori. Che il barbone fosse inviato del re. Vabbè, l'importante è che sia morto il capitano, mi sta sul ballo. E... che persona di buon cuore. E va mai detto. Diciamo che il giorno dopo sembra che comunque ci sia una certa fretta di ripartire. E notate anche... E siamo senza Otaria, quindi. Come la chiamiamo la nave adesso? Il Sirron impiccato. La psicologia chiama Rotare Danzante, ma non ha più Rotare del capitano. Un'altra cosa, sapevate che in questi giorni comunque i reclutatori erano in giro a cercare anche nuovi coloni, eccetera. Quindi ci sono un po' di facce nuove anche, di come coloni, eccetera. Qualcuno che abbiamo intravisto. Però c'è anche un colono in meno, ed è il vostro amico Peloso. L'ex per RPG di Arch. Detto questo, io chiuderei l'episodio. Questo era il sesto episodio di Coloni, la danza dell'Otaria, che è stata anche l'ultima danza, ma visto che si chiama l'ultimo scalo non potevo chiamare l'ultima danza. E vi diamo appuntamento ai prossimi episodi, non so esattamente se ci mettiamo d'accordo. Io parto venerdì. Dove vai? Vado in Sardegna. Ah, quindi sabato non ci sei. Quindi sabato non ci sono. Ah. Però se riusciamo a metterci d'accordo potremmo fare, magari potremmo fare anche se c'è Arci un Urban Heroes piuttosto. Martedì o giovedì? Martedì o giovedì hai detto tu? Per ora sì. Io ci dovrei massimo essere... potrei cambiare martedì con mercoledì libero, ma non sono sicuro. Per ora ci dovrei essere tutta la sera fino a venerdì. Quindi, io preferirei mercoledì, ma sono... martedì va bene per esempio. Pensavo provare a fare un calciato, ma non credo che si riuscirà. Quindi può attivare. Vabbè, comunque se volete fare Urban, fate, non è un problema. Ma adesso ci sentiamo. Ci sentiamo. Va bene, ragazzi. E salutiamo tutti gli amici che ci hanno seguito in questa puntata. E potrebbe essere domani lunedì. Domani lunedì, cioè, sì, è domani perché domani lavori, Catta. Sì, sì. Ha ragione Catta, domani è martedì. Domani è martedì, sì. Va a sveglio. Si vede che è uscito dal personaggio Quake ed è entrato in Catta. Era onde la sera. Va bene. Va bene, ragazzi. Poi vi dico già che dalla prossima puntata saliamo di livello. Esatto, quindi nel caso per fare. E che sala cambia personaggio? Quaderno verde. Tu. Ah, se tu vuoi cambiare personaggio. No, adesso ti dico. Adesso ti perché dico... dovresti cambiare personaggio? Chiudi, poi ti dici. Va bene, ragazzi. Grazie per averci seguito. Continuate però a. Potevamo trovare un sinonimo, ma non l'abbiamo trovato. Followaci su Facebook, pagina Tycoons & Dragons RipGDR, podcast RipGDR. Blog rigdr.wordpress.com, Twitter Tycoons & Dragons e dita assurde e gente che va in bagno. E alla prossima puntata, al prossimo episodio, buon gioco di ruolo a tutti e basta, se riesco a chiudere dirette ci vediamo. No, c'è stato lo scontro. No. È chiuso, beh. Non ci riesci. È bellissimo. Zitto. Quella sì, la salvo. Non ho ancora finito la trasmissione, tutta la registrazione. Eccola qua. È touch. No, non è touch. Saluto anche gli amici del podcast. Mi raccomando, ore, continuate a seguirci. E shoppate. Shoppate su Society 6. Shoppate come se non ci fosse un domani. Non possono vedere che fai questo. Ma domani arriverà. E ricordate, il GDR sta arrivando.